suscitate in me e in molti italiani un problema. Voi siete dei bastardi odiosi, però non riusciamo a smettere di ascoltarvi. Tirate fuori il peggio dai politici, ma non riuscite però a finalizzarlo a nessun tipo di scopo etico. È una cosa tremenda. La Zanzara. Sei ancora a casa, Simo? Francesca, Francesca, ma quanta voglia, quanto morivo di star con te. Francesca, Francesca, a piedi nudi in riva al mare abbracciato a te. Mi si è fidanzato? Sì, mi sono... Si è fidanzato? Sì, è ufficiale? Sì, è ufficiale. È ufficiale? Si è fidanzato? Ah. Ho avuto, con una napoletana. Con una napoletana come lei. Come a me, molto più piccola di me. Molto più piccola. Beh insomma. Così è piccola che c'è un divario di 49 anni tra me e lei, sì. Quindi un po' eccessivo. Quanti anni ha? Possiamo dire il nome? 28 sì. anni. 28, 28 anni, sì. Si chiama Francesca. Si chiama Francesca. E soprattutto è una ragazza con sani principi morali. È una ragazza bella, bella di fuori, ma ancora più bella di dentro. E quindi una ragazza dai principi morali solidissimi, di un'allegria continuativa, mi sta molto vicino, mi vuole molto bene e io la ricambio. E siccome prima faceva le feste, perché si era divorziato, perché era morta la madre, perché era morta la sorella e si sentiva solo, adesso le cose sono cambiate. È molto amica di Marina. Ah, sì. Sì, sì. E quindi direi che finalmente mi sento meno solo. Che carino. Beh, caro Parenzo, sorge spontanea una domanda. Noi ovviamente possiamo ironizzare sulla differenza di età, i 50 anni, no. Sulla nuova fidanzata. No, no. Siamo stati noi ad anticipare notizia uscita persino sul Times di Londra, che c'era ormai un fidanzamento ufficiale per bocca della signora Santanchè, per bocca della signora Picelle, ma questi sono dettagli. Possiamo ironizzare a lungo, però insomma, sorge spontanea la domanda. Trattasi di strategia elettorale o di amore puro? Fatto sta, insomma, che la trasformazione della signorina Pascale negli ultimi anni, negli ultimi mesi, anzi, è stata prorompente. Prorompente. Pensate un po', noi l'abbiamo documentato, no? Caro Parenzo, ti ricordi, no? Ospitando l'autore, il fondatore di Telecafone, no? Telecafone, certo. Te lo ricordi, certo. Il signor Oscar Di Maio. Ottima emittente. Ma lo vuoi risentire il signor Oscar Di Maio? Mi fammi sentire Telecafone. Voglio dirti una cosa, perché su questa roba dell'amore, sì. Io davvero non vorrei oggi, giuro, non voglio fare nessuna ironia. Non vuoi infierire su questo, non vuoi infierire. No, nemmeno no, nemmeno sui 50 anni. Due persone che si amano, che si vogliono bene, che fanno l'amore, anche quell'età lì, anzi è meraviglioso, un incitamento a tutti gli anziani che ci stanno ascoltando. Cioè si può avere una relazione tranquilla, sì, normale, anche con 50 anni di differenza. No, che c'entra con la nipotina? No, ma con la nipotina stai praticamente incitando all'incesto, sei impazzito? No, sì. Dico con una che può avere l'età di vostra nipote, non con ecco, la nipotina. Ecco. Però su questo non si scherza, perché quando c'è l'amore per cortesia... No, è vero, è vero. Quando batte il cuore... La stronzata è un'altra. Qual è? Mi fate arrabbiare subito, perché quando lui dice, hai fatto bene a farlo riascoltare, perfido direttorissimo. Cosa? Perché quando lui parla di quelle, dice, mi sentivo solo e ho fatto delle cene. Ma delle cene di per sé non è un crimine, cioè, se uno vabbè, è solo, però fa qui cene. Entri nel dettaglio di una cosa processuale. Secondo alcuni sono cene eleganti, secondo altri sono cene da prostituzione. Quello è un altro discorso. Ma perché bisogna avere perché lui dice chiedo scusa ai miei elettori. Allora vuol dire che a quelle cene lì avveniva qualcos'altro. Ma chissà. Però intanto aspetta un attimo, c'è tempo, siamo solo all'inizio, abbiamo già un ospite. No, non c'è tempo, perché il tempo ci divora e si arriva subito a 79 anni come quello è vero, anni, quello è vero. Però senti, io voglio risentire il mitico Oscar Di Maio di Telecafone, perché è il momento di esordio della signorina Pascale, tanti anni fa, in realtà 10 anni fa. Se fai un mezzo giro si alza la di te, se apri un tortino si alza la di te, se mostri un po' di coscia si alza la di te, se muovi il mandolino se mostri un po' di coscia si alza la di te. Ed eccola da Lerner, senti come azzanna Lerner. Le consiglio un trapianto nel 2009. E gli uomini che invece a 70 anni si mettono del bitume sulla testa per apparire meno calvi di quello che sono? Qualsiasi allusione assolutamente. Ma no, l'allusione al presidente Berlusconi, mi scusi signor Lerner, ma l'allusione al presidente Berlusconi, che cosa c'entra la tintura o quello che lei stava dicendo con una parrucca viola? A 60 anni penso che si arrivi... Cioè lei dice capelli finti neri vanno bene e viola vanno male. No, prima di tutto il presidente Berlusconi non ha nessuna parrucca e capelli neri. A 60 anni penso che... Ha un trapianto. Sì. E che è completamente diverso, un'altra io cosa. Lo consiglio se mi posso permettere. Me lo consiglio, sì, glielo consiglio, grazie. Perché un uomo televisivo deve comunque curare la sua immagine come dovrebbe. Nel 2009 consigliò a Lerner di farsi un trapianto, perché un uomo che fa televisione dovrebbe farsi un trapianto. Capito? Se mostri un po' di cosce si alza l'auditel, eh. Tutto questo mentre intorno a Berlusconi il PDL si sta sfaldando, si sta frantumando in mille pezzi. Crosetto ieri, o Scajola e Dell'Utri o me e la Meloni. Molto bene. Io sono qua per dire che un centrodestra credibile, e scusatemi se lo dico come al solito in modo calmo ma in modo violento, o a Scajola Dell'Utri o a me e la Meloni. Torniamo con Berlusconi, che ha nominato i comunisti una quarantina di volte ieri. Però qui la questione, la polemica c'è sul tipo di intervista, una polemica secondo me assolutamente inutile, perché è evidente che se vai in quel tipo di contesto poi non si può rimproverare la D'Urso di non fare la Boccassini, no? O di non fare Mentana, o di non fare Lerner, o di non fare Vespa, no? Ma sono polemiche inutili, c'è la crocifissione della signora D'Urso, è una cosa ridicola. Ridicola. Non era un'intervista. Sì, è un salotto dove uno va, si no, trova... era una chiacchierata tra due amici. Bravo, amici. Ma delle telecamere. Bravo. Ma non era un'intervista. Hai trovato la definizione giusta. Era una chiacchierata tra amici ripresa dalle telecamere. Ecco, ma infatti è una chiacchierata tra amici, anche l'ordine dei giornalisti che interviene dice che lei era pubblicista. Ma allora poi è stata grave che lei, che non è giornalista, non ha fatto un'intervista. Come cazzo? È una chiacchierata tra amici, tra il proprietario della televisione e una sua dipendente. Meraviglioso. Sulla tua pelle un bacio darò Francesca. C'è quel fuori onda, poi ne parliamo dopo la pubblicità, poi mi chiedi, vabbè, comunque dettagli. Ma di Pannella, non vogliamo dire una cosa seria? No, dopo, non mi cominciare con Pannella, dai, no, su. No, voglio dirti che sono molto preoccupato. No, perché... Va bene, sei preoccupato, abbiamo capito. Intanto, pensa un po', a un certo punto, sì, d'accordo, la D'Urso è partita con l'IMU, no? È partita con la storia. Io incontro delle persone per strada, una cosa terribile, mi chiedono, presidente, questa IMU non la possiamo pagare? E cioè, indovina un po' come ha risposto Berlusconi, secondo te, come ha risposto Berlusconi? Questa tassa dell'IMU, che mi creda, lei lo saprà certamente, ma io vengo fermata per strada dalla gente che non ha i soldi per pagare questa rata dell'IMU, non arrivano a fine mese, la tredicesima verrà mangiata da questa rata dell'IMU, sono veramente tutti disperati, la gente vera. Prima dicevano viene Silvio Berlusconi, ma chiedicelo, ma perché siamo così, ma che cosa si può fare? Quest'IMU è una patrimoniale sulle case, anche sulle prime case, che per fortuna più dell'80% delle famiglie italiane posseggono, ed è un'imposta che secondo me va assolutamente abolita, anzi il secondo punto del programma. Ma l'avete votata voi? l'hanno votata pure loro, al di là delle responsabilità che uno può avere nella questione dell'ICI, certo, sulla quale si può discutere naturalmente, ma l'ha votata pure il PDL in Parlamento. Bravo. L'introduzione dell'IMU l'ha voluta pure il PDL, l'hanno votata in Parlamento, di che parliamo? No, ma poi intanto magari... Grillo comincia a cacciare un po' di gente, anzi continua a cacciare un po' di gente dopo aver detto una cosa assurda, cioè senza di me ci sarebbero i nazisti in Parlamento. Ma che vuol dire? Cioè, non è che senza Grillo ci sarebbero quelli di Alba Dorata, non è vero, sono situazioni diverse, è una falsità quella che dice Grillo, non è vero che senza di lui ci sarebbero i nazisti in Parlamento, bisogna dirlo chiaro e tondo. Arrivano Albe Dorate, arrivano la destra, quelli lì non li vai a dire, vai un po' a dire a Hitler, scusi, il capitolo 5 del paragrafo è errato, caro Hitler. Arrivano, entrano in Parlamento col passo dell'oca. Non è vero, non è vero, non è che senza Grillo arrivano i nazisti, non è vero, chi l'ha detto, chi lo sostiene, secondo quale sondaggio, secondo quale ragionamento politico, non è vero, è un falso colossale. Allora, chi ti ho invitato? Marco Pannella. No, ma aspetta, con Pannella sei fissato, non è che tutto, ma non è che tutto, male. Sì, è uscito, non dove, secondo i medici non doveva uscire, non ma questo doveva uscire, ma lo fa sempre, lo fa sempre, ogni volta è una costante. I medici gli dicono di non uscire e lui esce. Siamo con lui, Marco. Vabbè, tu sei con lui, benissimo. Con la tua battaglia, la va bene, d'accordo. È con te. Ma non è vero. Tutta la zazzara, Marco, è con te, smetti. Mangia e bevi, Marco, ti prego. Raffaella Pirini è stata ieri, oggi non mi ricordo, consigliere comunale a Forlì, espulsa, diciamo così, attraverso la questione del simbolo, no? Della negazione dell'uso del simbolo da Beppe Grillo. Buonasera. Salve, come sono sta? A rapporto. Come sta? Eccomi. Come sta? Bene. Innanzitutto la colpa è di Radio 24 e di Alessandro Milan che la intervistò quel giorno e le fece dire alcune cose sulla Salsi. Dunque già chiariamo questa cosa qui. Chiariamo di chi è la colpa, esatto. La colpa è nostra, come al solito, cioè certo. In particolare di Alessandro. Esatto, poi io vi ringrazio perché appunto io sono 1-0, felicissimo di esserle, oggi l'ho citata più volte in conferenza stampa, quindi... Senta, però io non so se lei lo sa, ma ho una mia idea che ovviamente non è che si può applicare a tutti quelli che vengono espulsi. Cioè voi non è che non conoscevate com'era fatto Grillo, cioè non c'è stata una trasformazione di Grillo. Grillo è sempre stato lo stesso, cioè il conducator del movimento, quello che decide tutto. Cioè perché adesso le cose dovrebbero essere diverse? Scusi. No, in realtà lui si è sempre professato essere solo portavoce e non leader politico, siamo diventati capo politico. Ha detto che c'era democrazia all'interno del movimento, democrazia è non fare assemblee territoriali, ma è democratico che diceda lui o Casaleggio o tutti e due assieme. Cioè da quando c'è stata questa trasformazione? Ecco, da quando c'è stata questa trasformazione? Ma gradatamente direi, perché i rapporti umani si sono anche sempre più sfilacciati, deteriorati e se permette noi ancora un pochino ci crediamo nei rapporti umani e quindi la mancanza di dialogo e di possibilità di parlare non... Mi faccio un esempio del modo in cui sono degradati i rapporti umani, cioè in qualche colloquio tra lei Grillo, in qualche colloquio tra lei Casaleggio, mi faccio un esempio concreto. Allora, siccome io sono un pochino così, mi hanno detto che sono un po' rompiballe, può essere, il tutto è cominciato quando improvvisamente a freddo c'è stato un attacco dal blog di Grillo contro De Franceschi per la mozione per i lavoratori dell'Unità, che uno può anche dire forse essere fatta non in maniera estremamente corretta, ma sicuramente di solito funziona che se uno combina un guaio viene richiamato, si telefona, si chiarisce e si modifica. Invece no, non ci fu nessuna chiamata. A freddo ci fu questo attacco, questo dileggio proprio in pubblico sul blog, creando le prime spaccature all'interno del movimento. Scusi un attimo, secondo lei più è aumentato il consenso e più Grillo è diventato un dittatore? Ma io non vorrei usare queste parole. Vabbè. Però c'è questa cosa strana che io notai subito e glielo chiesi tramite sms, mail, tentativi, telefonate, mai avuto risposta, dicendo siamo in piena corsa, stiamo crescendo, perché attaccate voi il movimento e ci date in pasto ai giornalisti che non sapevano neanche che ci fossimo. Quindi è ovvio che in quel momento in cui sta partendo un attacco così, qualcuno dei consiglieri si chiede perché. Cioè si stanno accentrando, cioè è un modo per accentrare tutto, per non avere, no? Da questo punto di vista sembra un po' una cosa quasi da Pol Pot, no? Ma io non lo so, sinceramente mi sono sempre chiesta che significato avesse. È vero che il divide et impera è vecchio come, come il mondo, però dunque una sorta di divide et impera, si può dire. Quello che mi è venuto in mente, una delle possibili spiegazioni, perché non c'erano stati nessun tipo di dissenso, diciamo, manifesto. Io la combatto da ore, punge e poi fugge. E siamo qui, 800 24 00 24, caro Parenzo, nel giorno in cui ha parlato Napolitano, con cose molto importanti, ma ne parleremo dopo. Raffaella Pirini, l'ultima epurata dal Movimento 5 Stelle, non può più utilizzare il simbolo, consigliere comunale a Forlì. Ma lo farà lo stesso? No, non credo che lo farà, non lo può fare, non credo che possa mettersi in eguaglianza. Ah, lo farà lo stesso? No, nel senso, io non posso certo usare il logo del movimento perché, diciamo, non posso certo permettermi di fare cose di questo tipo, però continuerò a fare consigliere comunale, anche perché io comunque ero stata eletta come col simbolo lista civica destinazione Forlì, e quello rimane, insomma. Vabbè, e Grillo era pienamente cosciente quando è venuto a chiudere la nostra campagna elettorale. Senta, ma sta facendo, si può dire, adesso io uso magari dei termini forti, una sorta di pulizia etnica in questo periodo, perché là in realtà ha sconfessato tutto il vostro gruppo, non solo lei, che si è esposto. Sì, infatti pulizia etnica si può usare? Così, non mi piace pulizia etnica, però sicuramente sta facendo dei tagli molto, diciamo, grossolani. Tagli orizzontali, si ricorda quando? Sì, diciamo, fastidio io poteva inibire a me semplicemente e non a tutta la lista, e soprattutto poteva dare comunque la possibilità di candidarsi alle parlamentari anche un gruppo come Forlì, che mi piace ricordare che è stato un po' la scintilla forse di tutto il movimento, perché Grillo lo conosciamo dal 2002 e da qua sono partite un sacco di battaglie sull'energia e sui rifiuti. Sì. Ma se continua così è destinato all'eutanasia, alla morte. Ma io non lo so, non so che cosa abbia in mente. Sicuramente la gente che incontriamo per strada, che ci conosce, che anche non ci conosce, si sta chiedendo che cosa sta facendo. Non noi, cosa sta facendo lui. Io spero che se lo chieda, perché noi abbiamo fatto delle domande e non c'è data risposta. Ecco, ma c'è la volontà secondo lei di accentrare tutto? Qualcuno parla esplicitamente del fatto che arriveranno tanti soldi dalle elezioni e dunque vogliono accentrare tutto l'introito dei gruppi parlamentari, o no? Diciamo che io non penso che questa sia la ragione d'essere di tutto ciò. Però penso che sia difficile da governare un movimento, ma bisognerebbe almeno provarci con gli strumenti democratici che abbiamo a disposizione. Sicuramente ci sono dei soldi in gioco, anche perché già anche solo i blog, più accessi ci sono anche solo per fare della polemica, e più questo porta in alto le quotazioni delle pubblicità che sono sul blog stesso. Ma ha tradito lo spirito, possiamo dire che ha tradito lo spirito iniziale di questa democrazia dal basso, l'ha tradita definitivamente Ron Hubbard di Genova. Tu lo chiami sempre Ron Hubbard, secondo me. Certo, ma come vuoi chiamarlo? Il Ron è che Ron Hubbard è morto, io non auguro la morte a nessuno, ma il Ron Hubbard metaforico, possiamo dire che ha tradito nel profondo il movimento. Oh no. Possiamo dirlo che ha tradito. Diciamo che certi principi no, assolutamente, ma alcuni direi di sì, perché nello statuto c'è scritto che ci sarà un confronto efficace ed efficiente con gli attivisti del movimento e con noi. Scusi Benini, però quello d'accordo, però lei mi sembra un po' morbida, perché in realtà qui nei movimenti democratici uno, per carità, con qualche filtro, però ai leader, cioè se un deputato, un consigliere del movimento del Partito Democratico vuole parlare con Bersani o con qualche consigliere di Bersani, con il casaleggio di Bersani, cioè prende il cellulare e chiama. Esatto. E dopo magari qualche ora riceve una telefonata. Cioè questa cosa qui è impossibile con Grillo, o sbaglio? È impossibile, ma io non penso perché di essere morbida, e la collera e gli urli li lascio a qualcun altro. No, vabbè, io sto semplicemente disegnando la situazione, ed è sufficientemente dura da sola, perché se un consigliere cerca di chiamare i suoi referenti a livello nazionale da novembre dell'anno scorso, non viene ascoltato, vengono mandate raccomandate e non risponde neanche l'avvocato, io non ho bisogno né di strillare né di usare dei toni, delle parole. A chi assomigliano Grillo e Casaleggio da questo punto di vista? A qualcuno che non ascolta assolutamente la base, che parla di democrazia ma non la applica all'interno del Berlusconi? Momento. Berlusconi? Può essere Bossi? Bossi. Abbiamo avuto tanti di esempi di partiti padronali. È uguale, no? 5 Stelle sono diventati un partito padronale ormai. Non è che è diventato un partito padronale, ma questa gestione verticistica c'è. Perché comunque non, fra l'altro, assolutamente, indipendentemente che possano avere delle idee anche estremamente valide con le quali si possa discutere e confrontarsi, non è pensabile che in un gruppo a delle persone venga negato il benché minimo contatto umano, perché altrimenti, cioè, non c'è contatto, ci ha negato il contatto umano con lui proprio, cioè il confronto materiale, il proprio carnale, esatto. Quasi, no? Diciamo telefonico. Telefonico, vabbè, telefonico. Ma non è un po' maschilista da questo punto di vista, Grillo, soprattutto per quello che riguarda le donne? Adesso non per tornare alla questione del punto G, però c'è un po' di maschilismo nel suo movimento? Ma no, nel movimento no, non è che c'è maschilismo, anche perché facevi il conto degli epurati, sono più epurati in numero i maschi. Però non c'è una donna, non c'è, ci sono, non c'è una donna, no, nel vertice. Ma qual è il vertice? Non c'è, nel senso, Grillo e Casaleggio è ovvio che non siano donne. Su questo non c'è dubbio. Questo è un dato di fatto. Non c'è per dubbio. Il resto, voglio dire, nel 2010 Grillo mi telefonò per chiedermi di fare il candidato presidente della regione. Però Emilia mi dica Romagna. La verità, io ho sostenuto una cosa, che senza Grillo voi non siete niente, ho anche esagerato, però è vera questa cosa qua, senza Grillo voi siete nulla dal punto di vista politico, no? Sicuramente Grillo ha dato quella visibilità che noi non avremmo mai potuto avere, che forse il movimento avrebbe avuto dopo anni, forse decenni, sembra che fossimo riusciti. Questo nessuno lo nega, e lui era quello che ci dava speranza, come per le lotte dei cittadini normali. Ma io quello che ho detto oggi, che per fare la cifra di 1 miliardo ci vogliono 9 zeri, e senza quei 9 zeri, quell'uno davanti è un'unità, non è 1 miliardo. E quindi ognuno nel suo piccolo ha il suo dovere, il suo lavoro e ha il suo posto. Mi dica che è una stupidaggine colossale questa qua dei nazisti in Parlamento. Se non ci fossi io entrerebbero i nazisti, è una cosa assurda, cioè non sta scritto da nessuna parte, o no? Forse è nazista è lui. Sì, io non dico questo, ma sicuramente sulla base di che cosa pensa. Beh, certo. Se non c'è lui, se continuano ad esserci le persone che c'erano state fino adesso. Non c'è dubbio. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. L'intervista per modo di dire, naturalmente, a Berlusconi su Canale 5 a Domenica Live ieri pomeriggio, quando la massa degli ascoltatori, eppure ha fatto solo il 15%, ma comunque insomma la massa degli spettatori era concentrata in quell'orario, era iniziata in questo modo, con la storia del parto naturale, lui nato con il, no, te lo ricordi, no? La ripetuta, cordone ombelicale, con un'aggiunta magari già ripetuta mille volte, quella del medico non comunista. Sentiamo. E volevo dirvi che anch'io sono frutto di un parto naturale. Ah! Faticoso? Sofferto da parte di mia madre, che ha fatto racconti incredibili. Avevo il cordone ombelicale attorno al collo, per fortuna c'era un medico non comunista e l'ha aiutata. Ma quante volte ha ripetuto la parola comunista durante questa intervista, tra virgolette, Berlusconi? Per quante volte? Intervista, colloquio, com'è che l'hai definito tu, no, giustamente? No, è una chiacchierata tra amici. In famiglia, ripresa da alcune telecamere. Sì. Sì. Erano incidentalmente nello studio di Mediaset. Beh, no, però scusa, no, se fosse così sarebbe tutto spontaneo, sarebbe tutto più, no? Ma magari è una chiacchierata tra amici consapevoli di essere ripresi dalle telecamere. Sì, ma è una roba di famiglia, non è mica una roba drammatica. Infatti, tutte queste polemiche non le capisco. Certo, c'è sempre la solita storia, ma questa è antica, 1 ora e 20, no? Ma la gente può chiacchierare tra amici anche per Ho capito, ore, ma un'ora e venti potrebbe essere concesso anche ad altri leader politici. Ma no, ma dovevano fare 4 ore, 5 ore, perché tra amici, non è che c'è un orario, capito? Infatti sono andati molto oltre il previsto, secondo me. Punto. I comunisti? Sentiamo qualcosa sui comunisti, dai. Lo vuoi sentire o no, i comunisti? In Germania, molte decine di anni fa, i comunisti sono diventati socialdemocratici, da noi sono ancora assolutamente comunisti. Sembra di dire un nome fuori dalla storia, però ricordiamoci che il comunismo ancora mette sotto di sé più di 1 miliardo di cittadini di questo mondo, quindi esiste. E chi se ne frega? È tutto un vecchio armamentario ormai consumato che sentiamo da 20 anni, cioè non aveva neanche senso che si recasse in quello studio, bastava mandare tutte le cose che aveva fatto, non c'è niente di nuovo, va benissimo, io era D'Urso, che roba è? Pannella, mangia! Vabbè, le ragazze soffrono, non trovano lavoro, per questo l'aiuto, così giustifica davanti al pubblico i 2.500 al mese che adesso sborsa ad una trentina di persone, forse di più. Ha sofferto queste ragazze che adesso non trovano un fidanzato, un lavoro, nemmeno chi gli dà una casa in affitto, e io per questo sono, mi sento costretto e responsabile di doverle anche aiutare. Sei ancora a casa, Simo? Mai così appropriato, TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano, rammarico per la brusca fine della legislatura. Sarò io a dare l'incarico nel 2013. Non va bruciata la fiducia riconquistata dal paese. Bersani incontra Monti. Il professore sta riflettendo e continuerà a farlo, dice il segretario del PD. Direzione convocata sulle primarie per i parlamentari. Vertice l'Arcor tra Berlusconi e Maroni per discutere di alleanze in Lombardia e le politiche, ma la Lega prende tempo, voci di scissione. Allarme dei medici per Pannella in sciopero della sete, se non beve ora davvero rischia di morire, ma lui lascia la clinica contro il parere dei sanitari. Rapito in Siria un ingegnere italiano, Mario Belluomo, originario di Catania, lavorava in un'acciaieria all'Latakia, preso assieme a due colleghi russi. Al via il concorsone per 11.000 posti di insegnante, oltre il 65% dei 321.000 candidati non passa il quiz della prima prova. Lo scandalo rimborsa il Pirellone, non solo costose cene ma anche il DVD del film Benvenuti a Sud e 18.000 messaggi di auguri. Zanzara! Vi rendete conto, cari ascoltatori, un leghista si sarebbe fatto rimborsare perfino i soldi di un DVD Benvenuti al Sud di Bisio? Noi ridiamo, ma c'è da piangere per queste cialtronate. C'è da piangere per queste cialtronate, ovviamente, se fossero confermate. Ma quali cialtronate? Se fosse vero, ma purtroppo credo che sia vero, non è che uno si inventa, che chi lo compra. Sono quattro, cioè non quattro, sono degli straccioni. Beh, io ho detto cialtroni, è uguale, no? No, straccioni. No, cialtrone è un'altra, cialtroneria è una. Straccioni, cioè uno che si fa rimborsare anche un DVD o un lecca-lecca, peggio sì, ancora. Sempre questo leghista Orsatti, si sarebbe fatto rimborsare? No, si è fatto rimborsare, bisogna vedere se è legalmente o no. Alcuni libri, tra cui L'idiota in politica, Carta bianca, Uomini che odiano le donne e il DVD del film Benvenuti al Sud, come abbiamo detto. Capito? Avrebbe ottenuto anche il rimborso con soldi pubblici, cioè vostri, con gli stessi soldi che avete dentro il portafoglio in questo momento e che qualcuno vi ha gentilmente sfilato via senza il vostro consenso. Un CD di Bon Jovi, di grande utilità politica. Il CD di Bon Jovi, aggiornamento professionale, anche quello. Tu dimmi se può essere, adesso per carità saranno 20 euro, però ovviamente non sono solo 20 euro, no? Pannella mangia. È un piccolo esempio, il CD di Bon Jovi, a che diavolo può servire dal punto di vista politico? A cosa diavolo può servire? E non date la colpa alle segretarie, perché dice abbiamo dato riscontrini alle segretarie, no? Cioè le abbiamo distribuite a pioggia alle segretarie e poi le segretarie così a muzzu, come si dice in siciliano, a caso, a muzzu, così hanno dato il rimborso. Adesso vedrai che spunterà fuori magari anche un vibratore e ci faranno credere che è un aggiornamento professionale per quelle pratiche lì, per fare un DDL. Sempre DDL questo regionale. Leghista, il signor Orsatti. Orsatti avrebbe acquistato un CD Live at Wembley, Live in Japan. Vabbè. Concerti, amici miei, concerti. Ma che c'entra la Padania con Bon Jovi? Amico mio, concerti. Lo dico io, ma che mondo, lo dico io. Il top però potrebbe essere quello del capogruppo della Lega, il quale 6.000 e rotti euro per il matrimonio della figlia, una tale Valeriana. Sì, ma Valeriana Galli. Sempre siamo nel campo. Come va bene? 103 invitati, 6.180 euro per matrimonio di tua figlia. Beh, voglio dire. Ma di che stiamo parlando? Scusa. Può essere facilmente giustificato perché è una cena elettorale. Siccome cena elettorale, cazzo. Ma è una cena celtica elettorale per mia figlia. Abbiamo fatto una cena elettorale. Siamo sempre nel campo delle ipotesi, per carità. 800 24 00 24, Enrico da Forlì. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Vada. Ah, niente, ho sentito che c'era anche la Pirini prima lì, che è una mia concittadina. Signora Pirini, io... sì, cosa ha da dire? Beh, dopo se vuole dica anche qualcosina di Forlì, però più in generale... No, cioè, Forlì mi interessa poco, detto con tutto il rispetto, però ecco, mi dica qualcosa la signora Pirini. Non stiamo a entrare nel merito. Però, Vic, in generale, secondo me, fa benissimo Grillo a cacciare come voi tutti quelli che manifestano dissenso o cose di questo genere, perché... purtroppo ancora il problema di questo paese è che essere eletto in Parlamento è vincere la lotteria. Sì, però lei sta parlando della Pirini, mi dica qualcosa, che se no, altrimenti non può parlare. Pirini io non credo nemmeno abbia mai rappresentato il Movimento 5 Stelle. Io, che ne so Movimento io? 5 Stelle, quando è stata eletta poi non ho più visto Movimento 5 Stelle a Forlì. Se va a guardare il Movimento 5 Stelle di Forlì sul sito del Movimento 5 Stelle, l'ultimo commento è di 2 anni fa. Vabbè, dunque dice, Grillo ha fatto bene a cacciarla, non ho capito. Ma tanto non l'ha mai usato il logo di Movimento 5 Vabbè, Stelle. Grazie quindi. Enrico. Vincenzo da Milano. Pronto? Dica. Pronto, Parenzo, volevo ricordarvi che io Berlusconi lo paragono a Caligola. In che dove senso? Facevano le orge e nominavano senatori cavalli. Ah, lei dice, Vincenzo? Mi sembra che il risultato è così. Lei dice, come Caligola? Lui, per me, io lo paragono a Caligola. Che ne sa che facevano le orge, scusi, Vincenzo? Visto i giornali, quello che scrivono. Vabbè, i giornali non è che dicono sempre la verità, anche vero, però se non dicessero la verità lui li denuncierebbe, no? Beh, infatti qualcosina ha fatto, credo, qualcosina ha fatto, sì, qualcosina ha fatto. Finire, però, beh, lui dice che non facevano nulla di strano, niente di male, anche ieri l'ha ripetuto in pompa magna. Sì, ma proprio oggi ho visto una trasmissione che trasmetteva, che diceva che lui si è buttato dall'ultimo piano, non so come scendeva, a un certo piano trova una ragazza che gli dice po po po po, come dire, non ho capito nulla, scusi. E deve vedere la scena con la barzelletta che ha raccontato oggi in una trasmissione che l'hanno fatta vedere. Ah, ma che ha raccontato oggi in un'altra barzelletta Berlusconi? Sì, l'hanno fatta vedere, che l'ha raccontata anni fa. Ah, anni fa. Vabbè, grazie. Ernesto da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Niente, io sono incavolato, imbufalito, perché ho pagato la seconda rata dell'IMU e mi hanno depredato sulla prima casa. E vabbè, quello è successo a tutti, Ernesto. È successo a tutti, purtroppo. È incazzato. Potevano fare 3.000 cose, per esempio, la prostituzione e tassarla. Tassare la prostituzione, bravo, buona idea, buonissima idea. Slot machine e portarle a livello europeo. Che cazzo riteniamo a fare, questi bocconiani? Ernesto, non credo. No, non vado a prostitute. Un attimo. Sì. Vittorio? Sì, oi là. Come andiamo? Bene, bene. Sei in macchina? Sono in macchina, sì. Senti, ma innanzitutto ci sono due notizie dell'ultima ora. La candidatura di Ingroia, che però immediatamente dopo ha precisato: ho chiesto un'aspettativa cautelativa, non so se mi candiderò. Sembra è peggio del Sortentenna, questo, quasi peggio di Berlusconi in questo momento. Quasi peggio di Berlusconi. Beh, questo è una buona notizia insieme a una cattiva notizia, perché da un lato esibisce tutta la azione politica che era dentro il suo pensiero, ormai esplicitato, e poi dall'altro lato però forse consente a Di Pietro di sopravvivere. Di Pietro era al limite. Infatti Di Pietro si è già aggregato alla candidatura di Ingroia. La seconda notizia è che La Russa esce dal PDL in accordo, sembra, con Berlusconi e col PDL per formare un suo movimento che si chiamerà probabilmente Centrodestra Nazionale. Questo tu lo saprai sicuramente. Ma senti, però velocemente, poi abbiamo la pubblicità e ti richiamiamo. Ma Berlusconi ieri, ma abbi pazienza, ma questa cosa della Pascal è una cosa elettorale o no? Ma dai, la Pascal è una cosa vecchia più che altro, non è elettorale, ma perché l'ha ufficializzata adesso in questo? Bene, ovviamente, perché è meglio fare la campagna elettorale con una immagine di compostezza familiare, sia pure diciamo estrema, perché ecco è un po' troppo giovane, no? Se giovane e vecchio, cosa vuol dire? Che sappia l'ora da più giovane dei posti. Vabbè, 50 anni sono tanti, però, Vittorio, 50 anni sono tanti. Sono esattamente gli anni che separavano Carmen Lera da Moravia, ma non mi sento molto caldi su questo tema. Ma no, vabbè, ho capito. Ma la Moravia era un grande intellettuale. Che vuol dire? Che vabbè, quello che c'entra. Anni di più, vabbè, Parenzo, questo non c'entra nulla. Questa morale qui, no, la morale non è una morale, però, insomma, un po', devo dire la verità. Per l'immagine, potrei trovare una con 10 anni di più, va penso. No, dici, per l'immagine una ragazzina è meglio, dici tu, no? No, per l'immagine una ragazza di 35 anni poteva essere meglio. La differenza di età mi pare un dato totalmente insensibile. politica. Beh, scusa, ma lei... di più che Lalla Romano, grande scrittrice, sì, sposò, sì, Antonio Ria, sì, che aveva 50 anni di più. Però, non sono visti molto caldi su questo. No, no, no, ma io sono d'accordo con te, però scusa un attimo, allora, ma lei che ci sta a fare? Ma lei cosa ci sta a fare con uno di 50 anni più grande? Vittorio, su, perché dai. Nulla è più attraente del potere. Perché? Nulla è più attraente del potere. Ah, è solo potere secondo te? No, secondo me è ovvio che una ragazza... Ovvio. Che trova un uomo potente, sicuro, rassicurante, che si occupa di lei, è esattamente come Carmen Lera con Moravia. Esattamente, sì. Nessuno ha discusso questa cosa. No. Siete delle merde! In montagna, in colina, in campagna e anche al mare. Allora, non siamo saliti nella classifica delle, dei nuovi mostri, Parenzo? Perché? No, in realtà c'è la classifica della domenica, che è un po' più ampia. Sì. In cui siamo saliti al sesto posto. Al sesto, beh, posto. Cioè, la classifica domenica è un po' più ampia. Prima eravamo quinti nella classifica di Stefano. Poi la classifica domenica dei nuovi mostri siamo al sesto. Noi, per carità, non vogliamo niente di più che restare in quella classifica per un pezzo di Radio Cult che in realtà non abbiamo nemmeno voluto, perché Vittorio ci conosce, ogni tanto inzighiamo, no? Provochiamo all'esasperazione, però in questo caso noi con Fede davvero non abbiamo fatto nulla, nulla, nulla. Non abbiamo fatto niente, siamo niente. Dispiaciuti, meritavamo il primo posto. Adesso dispiaciuti mi sembra esagerato, molto, però non siamo dispiaciuti per niente. Denunceremo Mediaset. Però la realtà è che ha sbroccato da solo, cioè poveraccio dal punto di vista, però, come dire. Beh, ha sbroccato da solo, nel senso che è partito per la tangente dopo aver letto un articolo sull'Espresso in cui si scriveva che Berlusconi gli ha dato 800.000 euro di buonuscita. E siccome lui ha un problema, che è quello, diciamo la verità, dei debiti di gioco, insomma, se qualcuno magari no leggeva questa cosa, poteva dire: beh, allora però dacci i soldi, no? Vabbè. Candidatura di Ingroia, ormai quasi certa, nonostante i suoi tentennamenti. Nuovo movimento di centrodestra guidato dalla Russa. Vedremo che consenso avrà, ma discussione e polemiche intorno all'intervista di Berlusconi. Ora molti accusano Sgarbi, la tua amica Barbara D'Urso, di aver fatto un'intervista sdraiata. Ma non è un'intervista, sì, l'abbiamo già detto. Un'intervista sdraiata, cioè un'intervista piegata. Però in realtà di che stiamo parlando? Cioè, io ho detto che la crocifissione della D'Urso questa mattina su Twitter, Mentana e da altri, è una cosa ridicola, perché lì è un salotto dove uno dice quello che gli pare senza essere contrastato, diciamo. Figuriamoci il padrone di casa, ma di che parliamo? Cioè, Barbara D'Urso non è una giornalista che sta lì a fare un intervista seria, ma lei è una giornalista. Sì, d'accordo, ma è un salotto lì di casa dove uno dice quello che vuole, o no, Vittorio? Com'è la situazione? Ma io non ho visto un pezzo perché ero lì ieri, ho visto arrivare, ho salutato Berlusconi prima che entrasse. Non si erano messi d'accordo perché è arrivato 5 minuti prima, quindi evidentemente. Vabbè, che c'entra? Quello avviene prima, dai. Aveva avuto le domande, ma trovo la cosa insignificante, perché l'unico dato politico rilevante è, credo, quello di una determinazione a eliminare l'IMU. Da qualcosa potrebbe portargli consenso. Ho capito, ma Berlusconi tra l'altro l'ha votata, l'ha introdotta l'IMU. Capisci che è una contraddizione continua questa roba qua? Vittorio, sulla politica, la politica è fatta di cinismo, per carità, di capriole, quello che vuoi. La Russa aprono le ali e invece... di un maggioritario si va verso un proporzionale sempre più articolato. Mi piace molto questa cosa. Quindi Ingroia che una spina nel fianco per la sinistra, porterà via un sacco di voti a Bersani. Ah, quello è probabile. Tutto vacilla, sì. A meno che Bersani non faccia un accordo con Ingroia, cosa che mi pare difficile, però. Dopo gli attacchi a Napolitano, mi pare. Se tocca Napolitano muore. È certo. Però d'altra parte, insomma, Berlusconi ha usato la sua televisione come avrei fatto anch'io. Cioè? Perché essendo la sua televisione non è possibile che uno sia attaccato per tutto quello che fa e non debba difendersi, sia pure utilizzando strumenti che altri non hanno. Perché l'attacco è esagerato, l'attacco dell'Europa, l'attacco... Voglio dire, il fatto che uno si candidi è un fatto assolutamente democratico, perché devono... Ormai si può immaginare che la Lega voglia i voti di Berlusconi senza Berlusconi, molti vogliono i voti di Berlusconi. Maroni vuole i voti di Berlusconi senza Berlusconi. Sì. Allora a questo punto è chiaro che... Dica qualcosa a Maroni che vuole i voti di Berlusconi senza Berlusconi. Sì. Cioè, perché... Maroni è il punto più basso che si è mai toccato nella storia della politica, ma insomma, detto questo, è evidente però che pone una questione, può anche darsi che abbia ragione. Cioè, i leghisti o la Lega non voterebbero per un partito che si allea con Berlusconi, però i voti di Berlusconi gli servono, quindi va bene Alfano ma non va bene lui, sì. E Monti e Casini va bene Alfano, cioè, voglio dire, è talmente evidente che l'attacco sì, va su di lui, che è giusto che lui agisca come vuole, come può, con quello che ha. E la Meloni? La Meloni che la dice? Meloni, vabbè, la Meloni è sotto il livello di guardia. In che senso, scusa? Ma perché? Non si può neanche immaginare che uno possa andare avanti con personalità inconsistenti. Vabbè, non sei neanche mai laureata. Vabbè, avanti. Ho capito, ma non è che tutti devono essere laureati, eh? Cioè... Vabbè, però non è che manchino i laureati. Come cioè... sto ricevendo da giorni, e dirò a sì. Berlusconi anche delle prossime ore, sì, il candidato naturale è Martino, Antonio Martino. Ma Martino pure ce l'ha? Sì, vabbè, ma Martino, sì, per carità, io lo adoro Martino. Allora, spiegatemi perché... Hanno qualcuno che forse Alfano ha un pensiero? No, ma Martino, Martino per carità. No, Martino è più o meno coetaneo di Bersani. Ha 8 anni più di Bersani. No, che, ed è coetaneo di Monti. Va bene Monti, non va bene Martino? No, perché... ma per me è Martino tutta la vita, figurati. No, cioè. Il mio candidato è Martino. E questo dirò a Berlusconi in maniera molto chiara. Se poi lui vuole Alfano, si spenga Alfano. Ho capito, ma qui Berlusconi dice che vuole Monti. È tutta una tattica, è tutta una... No, vabbè, Berlusconi deve difendere i propri voti. Poi possa fare meglio come candidato premier o come capo del PDL, la cosa che si batte. Sono mesi che parliamo di questo, lui e sì. Io sono convinto che sia meglio che sia capo del PDL e vada. E poi con Martino parte, premier, con Martino premier. Con Martino premier. Se poi questa cosa non gli piace o non vi piace, te ne devi alfare e la Meloni. E Crosetto? E Crosetto, no, Crosetto che tiene in braccio la Meloni? Non è una cosa patetica, è ridicolo, è tutto ridicolo. Perché patetico? Ma perché? Di braccio che, ma che devono fare quei due? Ma che, sono due comici, insomma, uno non so, non, è tristissimo. Non questo. Hanno mezzo voto, secondo te? No, forse qualche voto potrebbe, ma no, non hanno voti. I voti gli ha Berlusconi e le idee le ha Martino. Mi pare che sia comunque perfetto. Comunque, guarda, io non riesco a capire questa cosa della presentazione ufficiale. C'erano già conferme, eccetera. Però insomma, adesso io non voglio, tu hai fatto giustamente un esempio che è quello di Carmen Liera. Parenzo, tu sei stato durissimo prima, adesso fai l'agnellino. Ma no, se mi fai parlare, io voglio dire subito una cosa a chi ci ascolta e anche a Vittorio. Tutto quello che dico lo dico nel nome del figlio. In che senso? Bravo, nel nome del figlio, sì. E qui non c'è ancora, speriamo che venga. Che è l'ultimo libro scritto del Garbi. Allora, altri 10 punti in più di voti. Potrei mettere incinta la Pascale, adesso questa è un'idea. Cioè? No. La Pascale mamma. La Pascale mamma, dici? La Pascale mamma sono 10 punti di più. Addirittura. No, però Vittorio forse, senza che si incazzi, ma sarà d'accordo con me che la vera operazione d'immagine Berlusconi l'avrebbe fatta che si fosse fidanzato con una di 90 anni. Cioè, sì, l'hai detto già questo. Ma no, ma che è sta stupidaggine, sì, su? Perché era un uomo di 90 anni però. Diventava una vera notizia. Il fatto che lui stia con una ragazza più giovane di lui di 50, ormai non fa più. Il fidanzamento accade quando accade, non è che uno può. Ma perché per te è un fidanzamento vero, dai, su, non scherziamo, dai. No, ma non è un fidanzamento vero, è una realtà di almeno un anno e mezzo. Io li vedo insieme sempre da 2 anni e mezzo. Quindi so perfettamente. Cioè, lui non vede altre donne, non vede altre donne da un anno e mezzo. Le donne che vuole, o ha visto tutte le donne che vuole, con lei che le vede, le guarda con rabbia. Ma non si può però bestiare. Cioè, non ho capito, la tradisce davanti? Cioè, la tradisce davanti? Lei ovviamente manifesta tutta la sua insofferenza per queste amiche, tra virgolette, che lui guarda. D'altra parte, non è che le sia celato il fatto che lui dà 2.500 euro al mese a questa, quest'altra. Ancora. No, quella è una cosa, ma lui frequenta anche, vuol dire, si circonda ancora una volta. Poverissimo invitarle a cena, non c'è niente di male. No, per carità. Però, insomma, continua ancora a frequentare però un sacco. Lei c'è sempre. Lei c'è sempre. Ed è una figura stabile e costante da almeno un anno e mezzo. Sì. Ragion per cui, che sia fidanzata, formula un po' trita, ma è probabilmente no, ma non mi piace una cosa più corrispondente paragone... a vero. Non mi piace assolutamente questo paragone con il grande Moravia. Ma che c'entra ora? Perché Berlusconi non può. 50 anni di differenza tra Carmen Liera e lui. 70 ma non c'entra. Lì c'era 50 un sodalizio anni tra Lalla Romano e Antonio Ricci. Lì c'era che cosa, Parenzo? Non ho capito. Un sodalizio intellettuale. Ma quale sodalizio intellettuale? Una ragazza in questo modo ha fatto una buona carriera attraverso un grande scrittore e ha avuto il successo che meritava. Come d'altra parte Dacia Maraini aveva fatto prima di lei. Ma non è così. D'altra parte in questi casi non sono Albertazzi con Chiesana. Cioè, Albertazzi ha quasi 90 anni. La sua ultima fidanzata ne ha 24. Sì. E quindi così è finito, non è? Carmelo Bene, 70 anni, stava con una di 20. Non è che ti riduci così pure te, no? Ma io non mi porrei questo problema se fossi in voi, non mi pare che vi riguardi. No, che ne so, mette un po' tristezza. Qualunque cosa capiti a me, a te, insomma, non mi pare rilevante. No, non è rilevante, no. Vabbè, Vittorio, ciao, stai bene. Ciao. Mi raccomando, ciao. 800 24 00 24. Gianni da Genova, buonasera. Salve Gianni, sono Rossi Gianni da Genova. Dica. volevo parlare di Alba Dorata e Movimento 5 Stelle, sì, di quello che ha detto Beppe Grillo, per dire che non è tutto sbagliato quello che ha detto. Non è tutto sbagliato, perché basta vedere cosa ha fatto in Grecia Alba Dorata. Io ho visto il documentario, quello che ha fatto Piazza Pulita. Ho capito, ma di che parliamo, ragazzi? Ma che c'entra Grillo? Io non dico Grecia, praticamente, sì, parliamo ma di cose reali. La sì, d'accordo. Apparenti e fanno promesse. Sì, scusi, Dorata, sì, signor Gianni. Faccio un esempio. Sì, signor Gianni. Sì, chiaro. Sì. Se ha un problema in Grecia che qualche rom o qualsiasi etnia, adesso io non sono né razzista né pro Alba Dorata, le occupa a casa, qua in Italia diventa un problema per liberarli. No, ma scusi, siamo una famiglia di due robe. Ma è una stupidaggine, ma è una stupidaggine il fatto che lui fa da schermo, fa da tappo ad Alba Dorata. Non è, è una cosa assurda. Non ho detto che è una cosa giusta, però la gente ha bisogno d'aiuto. Per esempio, so che Alba Dorata in Grecia, quando sono le vecchiette che a parte che è la Grecia, scorta, a parte che è la Grecia e non è l'Italia. È la Grecia, non lo metto in dubbio, sicuramente sotto l'Italia. Però io dico c'è una vecchietta che va a prendere la pensione Alba Dorata di scorta, sicuramente è una bella pubblicità che si fa. È come comprarsi Vabbè. Voti. Una volta si dava la pasta, si dava altre cose, sono delle esigenze che la gente ha e che la politica e nessuno riesce a risolvere per burocrazia. Vabbè, ma non è che in Italia la gente non si farebbe fascinare da Alba Dorata. La Grecia non è l'Italia, non è la Grecia da questo punto di vista. Matteo da Cagliari, buonasera. Salve, buonasera Cruciani, buonasera, buonasera Parenzo. Volevo farvi notare ci faccia notare, sì, su internet c'era un articolo dal nome Sentinelle a 5 Stelle nel quale si parlava dei dissidenti di Beppe Grillo. Sì. E cliccando sul nome Il Candidato Mascherato si va su una pagina Facebook dal nome Osservatorio Movimento 5 Stelle. Vabbè, allora... Che venerdì aveva 166 iscritti. Dunque? Ora mi chiedo, Repubblica deve usare questi metucci per andare contro Grillo? Cioè, perché sponsorizzare una pagina che solamente... sì, ho capito. Utenti? Ma guardi, non è una novità che Repubblica sta facendo, soprattutto nella versione online, ma non solo, una campagna... raccogliendo le voci contrastanti col movimento di Grillo. Non è assolutamente una novità ed è abbastanza comprensibile, no? Parenzo, o sbaglio? Sì, ma certo. Ma perché dici che cos'è comprensibile? No, è comprensibile che Repubblica stia facendo una, tra virgolette, campagna, cioè che dia molto risalto, più che campagna direi questa cosa qui, sta dando molto risalto a tutte le voci in dissenso da Grillo. Ma tutti lo stanno facendo, mica solo no, Repubblica. Soprattutto Repubblica, dai, soprattutto anche Repubblica. Il Corriere lo stiamo facendo tutti. No, lo stiamo facendo, non lo dice a qualcun altro, io non lo sto facendo per nulla. Tranne te, perché condividi... Perché non è che io condivido, io dico una cosa monarchica. Molto... Ma io non ho un'idea monarchica, io dico una cosa molto semplice, dico una cosa semplicissima. No, Grillo era quello e quello è. Per guidare quel movimento lo si può guidare solamente in quel modo. Fa bene a non mandare la gente ai talk show. No. Fa benissimo. Dice una stupidaggine. E adesso chi alza la testa è semplicemente solo. Quando nacque quel movimento? Ma quando nacque? Ma che c'entra? Ma che basi diverse? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? È cresciuto grazie a Grillo e Casaleggio, che da questo punto di vista sono due geni. E dunque, quando qualcuno alza la testa, lo fa solo ed esclusivamente perché non ha più spazio o per, come dire, per farsi vedere un po' di più. Ecco. Siamo al padre padrone. Ma che padre padrone? Una forma moderna, ma perché prima? Da Gavino Letta. Ma perché prima che era? Ma no, vuol dire. Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Anche la pubblicità dice forse sono un pazzo, forse sono perché a quest'età, però invece ho tanta voglia e tanta energia per farlo. Io toglierei il forse e l'affermazione sarebbe sono un pazzo. Beh, però c'era Erasmo da Rotterdam. Sei ancora a casa, Emo? Ed è con noi il mitico grande maestro Carlo Freccero, direttore di Rai 4. Buonasera. Buonasera, mi mancavate. Come stai? Come stai? Bene, bene. Ho un po' di raffreddore, ho preso un po' di tachipirina. Però... A me lo dici, sono distrutto. Senti, ma mi risulta che non hai visto Berlusconi, nemmeno registrato, nemmeno su internet. Ma non mi interessa assolutamente. Anzi, lo dico ai vostri ascoltatori, questa sera è a Quinta Colonna. per chi volesse appunto rivederlo ancora, risentirlo. E mi sembra che abbia cercato dei programmi così talmente miseri, così piccoli, così di spettatori già convinti di essere Berlusconi al 100%. Bravo, sì, sì, no, è quello che dicevo anch'io, cioè nel senso che secondo me erano spettatori che magari erano un po' incerti, però che ha cercato di riconquistare. No, cioè è proprio il suo. Sono i suoi spettatori, sono i suoi proprio così più fedeli, insomma, chi è che può vedere adesso la DUS al pomeriggio, su per favore, dai. Chi lo vede? Chi la vede? Adesso, oltretutto, l'unica cosa che ho fatto io domenica di dieta televisiva, che ho visto una cosa invece particolarmente veramente brutta, l'intervista di Riccardi con l'Annunziata. Vabbè. Proprio visto il potere temporale della Chiesa espandersi e declinarsi in modo così forte, eccetera. E lei pensa che l'Annunziata, lo dico con un tono un po' critico, si fa una domanda su Rosarno, cioè su questa situazione gravissima dei migranti. Sì. Niente, solo Alessio Monti. Cioè lei secondo te è un po' azzerbinata al nuovo potere? Però chiaramente una cosa mi ha colpito molto. Io Lucia voglio molto bene, la stimo molto, ma non aspettavo. Insomma, lui non è un ministro delle cose così. Sì, dell'integrazione. E non fai la domanda su Rosario. Tra l'altro ne ha sparata una che voglio farti sentire, sicuramente l'avrai notata, che Riccardi Monti ha più consenso internazionale di De Gasperi. Adesso siamo veramente alla durazione più assoluta. Ma ne ha sparate di tutti i colori, altro che Berlusconi. Cioè, è su questo programma che occorre veramente indignarsi. Di tutti i colori, quello con Monti, valore morale, eccetera, che fosse il Papa. Ma siamo alla politica. Allora, la teoria di Fracciaro mi sembra chiara. Berlusconi ormai è totalmente ininfluente e in realtà bisogna osservare di più come si diffonde anche in televisione il nuovo potere montiano, giusto Carlo? Io sono d'accordissimo con lei, Cruciani mio. Allora, sentiamo Riccardi su Monti e De Gasperi. È un uomo che può constatare il patrimonio di credibilità che l'Italia ha. Nemmeno De Gasperi aveva il consenso internazionale che oggi ha Mario Monti. Quando si vive in una comunità come la comunità europea, il consenso è fondamentale. Dai ragazzi, su, adesso uno la può pensare su Monti in qualsiasi modo, però mi sembra che sia partita, al di là di quello che dice Freccero, adesso lo dico a prescindere da Freccero, lo dicevo pure prima, sia partita un'adulazione nei confronti di Monti che va al di là del bene e del male. Sentite pure Albertini, io ho grande stima di Albertini, ex sindaco di Milano, ma non si può dire che ha contato gli applausi per Monti come alla Scala. Ragazzi, su, Albertini, dai, abbi pazienza. Sono orgoglioso che la reputazione del nostro Presidente del Consiglio sia così altamente riconosciuta. Ma io ero tra i banchi del Parlamento europeo quando ha fatto l'intervento Monti, e sentire 7 volte i deputati applaudire mentre parlava e contare 30 secondi come alla Scala quando ha finito con tutto il Parlamento in piedi mi ha riempito di orgoglio. No. Hai capito? Ma no, siamo d'accordo, guarda, siamo d'accordo su Grillo, siamo d'accordo anche questa sera. Ah, su Grillo fa bene ad espellere un po' di gente? Ma fa benissimo, è una situazione tragica, io mi comincio a preoccupare, Cruciani, perché quando sono d'accordo con te vuol dire che butta male. Uno dei due sbaglia. No, però, scusa, adesso Parenzo non è d'accordo, ovviamente, ma perché no, lui... Ma perché anche il maestro Freccero si schiera con il Ron Hubbard di Scientology Italia, cioè Grillo, perché? Oh, per favore, ma perdiamo tempo. Ci devo votare entro 45 giorni, bisogna fare il programma e si discute come tutti gli altri partiti. Sì, io sono d'accordo con te, facciamo Facebook, ti amo, non ti amo, mi piaci, non mi piaci. Ma decidi sulle questioni importanti, a Regione Grillo, per favore, non essere femminuccia. Ciao. Capito? Ma quel partito lì è nato per dare voce alla gente dal basso, chiunque poteva partecipare alla forza di quel movimento. Qualcosa, devi decidere il programma. Facciamo così, mi piace, non mi piace, per favore, lasciamo perdere il Grillo. Ti rendi conto che situazione c'è? Ma che omologazione c'è intorno a Monti? Riccardi, ministro dell'integrazione, invece di preoccuparsi di tutti i problemi che ci sono, si preoccupa di santificare Monti. E perché l'Annunziata non l'ha incalzato? Perché non l'ha incalzato l'Annunziata? Io sono stupito, io te lo dico, vedi, è un obiettivo. Sì, certo. È una cosa gravissima. Cioè, fa la domanda sul... A Rosarno c'è una situazione esplosiva, ci può essere un capodanno di fuoco e fiamme? No, ancora tutto il tempo lì a discutere quando si presenta, quando la farà, cosa non c'è farà. Molto più da indignarsi questo, bravo, rispetto alla D'Urso, che dice una cosa normale. Ma D'Urso lasciala perdere, poverina, era una fatta. Poi per di più dal suo in quei programmi lì cosa puoi fare, su, era una cosa così fatta in famiglia. No, ma sono d'accordo con Carlo, è incredibile questa cosa qua, tutti a indignarsi per che cosa? Per Berlusconi che va dalla D'Urso e la D'Urso non fa le domande, mica la Boccassini, su. Ma su, ma è veramente ridicolo, povera. Cioè è una cosa, oltretutto, anzi, mi sembra una prova di modestia, sono lì, sono fra di loro, se la cantano, se la suonano. È chiaro che sarebbe stato molto più bello vederlo un attimo a Verissimo, perché Verissimo è più chic, è più bello, è più classico. Senti un po', ma scusami Carlo, ma Ingroia che scende in politica è un po' no, un po' si può, non fa, per carità, anche lì un po' di tristezza, anche lui incerto, continuamente dice, non dice, poi adesso mandano un comunicato, ma a mezzo smentito, dice no, non mi decido, come la vedi Ingroia? Sì, tanto non lo so se parteciperà pure no, tu sai che Ingroia... qui cominciano le differenze, ma è chiaro che il PD non è più unico partito, cioè è un partito di centro-sinistra, cioè sì, non votano, devono avere qualcuno per chi votare, cioè a sinistra del PD ci sono migliaia di gruppuscoli di stanze, sì, di gruppi, sì, eccetera, e hanno bisogno in qualche modo di qualcosa in cui per esprimere il proprio dissenso, capisci? Questo qua, e quindi non so se sarà Ingroia o sarà un operaio della... Sì. Sì. Però non sembra una cosa che può andare insieme al Partito Democratico. Però torniamo alla questione della televisione di Berlusconi. Però la questione della Pascale, secondo te, una cosa tutta elettorale, il nuovo fidanzamento, una ragazza di 50 anni più giovane, ti fa un po' di tristezza questa roba oppure no? Ma no, io tristezza non mi fa niente, tristezza, per capire, cioè sono affari suoi, giustamente. Poi tu sai che io sul piano privato sono liberista. Sì, sì, no. Certo. Importante che uno non faccia una legge contro la prostituzione, però. Esattamente, liberista. Io sono un liberista, come nel pubblico sono invece solidarista, eccetera. Nel piano privato ognuno può fare quello che uno vuole. Uno può andare anche con una ragazza di 50 anni più giovane, presentarsi come qualunque fidanzato, dopo essere stato quello che è stato. Teatro, lo Stato non deve intervenire se deve... Cioè mi stai dicendo che per esempio il processo è sbagliato, fare un processo sulle cose private di Berlusconi? Ma secondo me sì, se non ci sono infrazioni, però sì, io sulla vita privata proprio ognuno può fare quello che vuole. Bene, detto questo, non mi sembra un po' stonato tutto quanto, capisci? Perché si vede che oltretutto è... ti dico una cosa, lo dico qui ai radioascoltatori che possono capire. Le donne di Berlusconi, queste ragazze, questa Pascale, mi sembrano tutte quante i replicanti di Matrix. Sai di quello che si replica in tutte le mode, il protagonista, il cattivo, eccetera. Tutte uguali, dici tu. Tutte uguali, cioè, mi ricorda Matrix a me. Beh, perché sai, una che parte da Telecafone, cantava certe canzoni... Mi piace veramente, perché c'è un aspetto sempre letterario. Devo dire che oltretutto nessuno ha scritto dei pezzi un po' belli su questo aspetto, cioè proprio sulla letteratura di quello che sta avvenendo, cioè di questa cosa. Cioè, mi sembra che sia una storia molto tragica, molto piena di... Cioè, invece di questa ironia, credo che si debba cominciare veramente a usare un po' più di letteratura. Senti Carlo, ma l'ipotesi invece, l'ipotesi di spostare Sanremo per le elezioni non è folle? Ma senti, dico una cosa solo. Io ti dico la mia esperienza. C'era la Carrà. Sì. È venuta la cosa di Nove Liguri. Noi abbiamo fatto con Santoro una puntata speciale, abbiamo battuto la Carrà a Rai 2. Quindi sarebbe possibile anche che durante quella settimana lì i programmi di politica, i confronti diretti, eccetera, possono in qualche modo stracciare, annullare, cassare Sanremo. Dunque, un po' la capisci la dirigenza della Rai che decide. Ah, io sì, la capisco perfettamente, perché guarda, quando tu sai, quando c'è veramente una cosa, la realtà è molto più forte. Te lo ricordi? Però non è che Berlusconi vuole, ha paura di la Letizietto e di. Perché Fazio fa capire questo dicendo. Ma Berlusconi cosa c'entra? Ma Berlusconi veramente. Sì, conta. No, la cosa è che non dimenticavo di dirti. Che Riccardi mi sembrava che volesse prendere il posto di Letta ieri l'altra volta. Anche Fiorello ha un po' inferito sulla D'Urso per l'intervista di ieri sera. Fiorello, domande incalzanti come la Boccassini, eccetera, eccetera. Vabbè, sentiamo. Devo dire, ieri abbiamo assistito a un'intervista, ragazzi, stupenda. Complimenti a Barbara D'Urso, perché io non ho mai visto una intervista così incalzante, così veramente quasi cattiva addirittura. Secondo me la D'Urso come la Boccassini, cioè è stata proprio a un certo punto Berlusconi non ce l'ha fatta più, se ne è dovuto andare dopo 1 ora e 10. Tutto sempre facile. Facile stavolta, Fiorello, facile, no. Facile, facile. Però non diciamo a nessuno che siamo d'accordo, Giuseppe. No, non lo diciamo, non lo diciamo, non lo diciamo, non lo diciamo, assolutamente. Si sentiva il bisogno invece del movimento fondato dalla Russa, forse insieme a Gaspari e forse no, centrodestra nazionale, Parenzo? Se ne sentiva. No, guarda, oggi venendo qui a Siena tra la mia figlia, sì? Tutti parlavano in treno solo di questo. Io, cazzo, ma c'è un nuovo movimento, ah, la Russa, benissimo, tutti che chiedevano. Ah, ma tutti facevo la fila per capire cosa. Addirittura hanno fermato il treno, sì, perché volevano avere informazioni, cioè non potevano arrivare al pomeriggio, volevano sapere subito. Mi invece, fermavano, mi invece l'immagine che ha Freccero è quella di un Riccardi che sembra ormai il nuovo Letta, ovviamente di Monti, no Carlo? Sì, chiaro, esattamente, sì. Beh, devo dire che l'immagine è abbastanza calzante. L'altro giorno in un'intervista, non quella dell'Annunziata, Riccardi ha detto delle cose incredibili, secondo me ha attaccato la politica di prima come se fosse uno schifo assoluto, eccetera, e poi metteva dei paletti, questo sì, questo no, quest'altro forse, esattamente, fa già in qualche modo il caligramma, una sorta di Rasputin, una sorta di nuovo Rasputin. Vedremo delle belle, ragazzi, ne vedremo delle belle. Che bisogna chiedere ancora a Freccero, Parenzo? Parenzo, dove sei? No, mia figlia non mi apre altro che la Russa, chi se ne frega di la Russa? Tutto fuori. Pare che di tutti i problemi. Ma che stai facendo? Scusa, che stai facendo? Non ho capito. Aspetta, aprimi. Ecco. Ma roba da pazzi. È aperto, grazie tesoro. Aspetta che chiudo. Pronto, dicevamo, la Russa. No, che la Russa? Cosa la Russa? Chiedi un'altra cosa a Freccero che deve andare via. Margherita? No. Chiedi un'altra cosa a Freccero che deve andare via, su. No, maestro, io sono. Ah, la Littizzetto, sì, la Littizzetto attaccata per la storia della parolaccia lì su cioè, no, c'è rotto il cazzo a Berlusconi, no? Però solamente è stato così, solamente vero, ma è poverino, è rimasto solo così, ancora era ancora il fuso orario del governo precedente, povero Verro. Vabbè, non solo Verro però, pare che anche nelle alte sfere della Rai la cosa non sia piaciuta moltissimo, alle alte sfere. Ma insomma, sono così. Cioè le parolacce sono interdette. E ormai il fuso orario è passato, il fuso orario. Dici? Io lo sai che cosa voglio fare davanti a Freccero invece? Chiamare il consigliere, il capogruppo della Lega alla Regione Lombardia, perché a me mi friggono, sono una bestia. Ah, galli! Sì, quando sento queste cose qui di cialtronaggine, di pochi denari rubati e fatti rimborsare con i soldi nostri, con i nostri denari, quelli che voi, cari ascoltatori, avete nelle tasche, perché voi non vi rendete conto che non avete deciso nulla. I soldi del finanziamento ai partiti e ai gruppi regionali non li avete decisi voi, se li sono presi loro, galli! Eccolo qua, aspetta. Tutto in diretta. Pronto? Buona Padania. Aspetta. Non risponderà tanto. Cos'è che si è comprato questo? No, che è comprato? Pare il matrimonio della figlia. Pare. Poi, pare. Bisogna sempre andarci caudi con queste cose, no? Bisogna sempre mettere dei sé, forse. Vabbè, poi lo chiameremo. Freccero, presto? Mi raccomando, vi abbraccio, buon lavoro. Ciao. Sempre bravi. Ciao. Ciao Carlo. Gino, ciao, da Milano, 800 24 00 24. Gino? Sì, buonasera carissimi. Io volevo essere un pro Berlusconi. Non riesco a capire perché tutti lo odiano, non lo stimano. Sì. Intanto stasera Berlusconi a Quinta Colonna, come ha detto Freccero, di nuovo in televisione a Quinta Colonna. Sveliamo una piccola cosa però, anzi sì, la svelo io, che in realtà Berlusconi doveva andare da un'altra parte domenica, cioè era già d'accordo per andare da un'altra parte e poi non c'è andato, chissà perché, preferendo quel salotto lì, poi lo sveleremo più avanti. Intanto Gino da Milano. Lo dico io dopo. Comunque possiamo dire, caro Cruciani, che si è sacrificato lui andare lì in televisione, sempre per i suoi elettori. In che senso si è sacrificato, scusami? Si è sacrificato perché poteva dedicare quel tempo a cose private sue. Ma che vuol dire, scusi? Come fanno tutti i cittadini. È questo. Se che significa? Che significa? Dire, si chiama l'Italia, si sacrifica, ha donato 20 anni dalla sua vita a questo governo, a questa Italia. Noi vediamo che Mussolini ha sempre fatto delle bellissime cose, ancora le scuole oggi le godiamo, costruite da Mussolini. Lei dice, le ferrovie, Ma lei sta parlando sul serio oppure no? Fernetica. No, no, io sa che ho sempre una pompa, sono il signore che ha quell'agenzia di pompe funebri, Non lo so, mica riconosco uno per uno i miei ascoltatori. Io, Cruciani, ci tengo alle persone un po' anziane che si mettono con gente giovane, magari ci rimangono, io sono sempre disponibile, pronto. Ma lei dice è pronto a raccogliere, no, a raccogliere il frutto di un'unione tra una persona anziana e una giovane, cioè spera che l'anziano, bravo, che l'anziano nell'incontro con una più giovane ci lasci le penne. Ma scusi, le devo chiedere una cosa a questo ascoltatore, ma quanto costa la più lussuosa delle bare che lei ha? È sempre disponibile, pronto. Gino, quanto costa la bara più lussuosa? Più lussuosa? Lo dico qua pubblicamente, no? Beh, certo. Dai. Sì. Passiamo i 40.000. I 40.000? 40.000 e cosa c'è in questa bara? Ma scusi, il funerale o proprio la bara? No, no, la bara. Cioè, la bara... qualcosa. È di lussuoso. C'è una bara da 40.000 euro, non ci posso credere. Certamente. Ma cosa c'è dentro la bara? Vi mando... Perché questo è il caso qui, mi date le mail, ve la mando con la foto. No, ma scusi, voglio capire, c'è qualcuno che in epoca di crisi compra una bara da 40.000 euro? Ma guardi che la crisi è solo per un certo ceto, Cioè, mi dica, quante ne ha vendute negli ultimi mesi di bare da 40.000? Negli ultimi mesi una. Ah, una, vabbè. Insomma. A chi? Questo, possiamo dire negli ultimi 8 mesi. Negli ultimi 8 mesi solamente una bara da 40.000 euro? Sì. Ma uno che l'ha ordinata prima, uno che l'ha ordinata prima o la famiglia dopo che l'ha comprata per 40.000? No, lei forse non conosce il motto, che quello che può essere delle agenzie funebri. No. Chi la compra non la vede, chi la vede non la adopera e chi la adopera non la paga. Beh, questa è eccezionale. Questa è buona. Ce lo ripeta pure, signor Gino, scusi. Deve tener conto che chi compra non la vede. E non c'è dubbio. È questo. Chi la adopera, chi la adopera non la vede. Sì. Chi la compra non la adopera. Sì. Perché non è per lui, certamente. Sì. E chi la adopera non la paga. Chi la adopera non la paga, beh, certo. No, non può più pagare. Dunque è la famiglia che la compra dopo. Certamente. E la bara economica. Ma com'è fatta questa bara per costare così tanto? Diciamo che è intarsiata d'avorio. Intarsiata d'avorio. E dentro? Niente. Dentro? All'interno è velluto e raso di una certa primizia e qualità. Velluto e raso e fuori intarsiata d'avorio. Il legno com'è? L'imbottitura è dei più... Il legno, in questo caso qui, non è legno italiano. Non è legno italiano. Beh, questa è una bara di cashmere, ad esempio. Scusi, si può avere una bara con un interno tutto di cashmere, meraviglioso. Di cashmere? Sì. Cashmere sarebbe stata per qualcuno che era di sinistra, che vestiva solo di cashmere. Per lui sarebbe stata di cashmere, ecco. Vabbè, Gino, comunque, quella più economica quanto costa di bara? Quella più economica per 8. Quanto? 1.800 euro. 1.800 euro, vabbè, 1.800. Siamo a livello proprio basico, cioè nel senso che è comunque dignitosa, perché sì. Lì bisogna pensare sempre alla dignità, ma costa un sacco morire, cazzo. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, retourne chez toi, je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop. Chi ha sofferto di più, credo che in assoluto sia stata Marina a soffrire di più, che adesso mi fa anche da madre, perché mentre prima avevo la telefonata una o due volte al giorno da mia mamma, che era molto vicina a me, mi telefonava anche sul far della notte dicendomi: oggi ho detto 5 rosari per te, oggi ho detto 8 rosari. Dico: papà, mamma, no, guarda che là non hanno più il posto per metterli, calmati. Non mi molesta il moschito. Alfano come segretario è stato creato. Tu me vuoi melancolica. Angelino Alfano, creato segretario del Popolo della Libertà con il voto unanime, salvo un astenuto. Ma come creato? Creato Beh. Segretario, su. Io voglio la Gerusalemme in terra. Guardate che veramente ne ha detti di tutti i colori. Perché considera la storia come un percorso verso la Gerusalemme in terra. Una società senza classi in cui tutti danno secondo le proprie capacità di lavoro e prendono secondo i loro bisogni. E quindi quando un comunista incontra qualcuno che si oppone a questo percorso della storia, non ha soltanto il diritto di farlo fuori anche fisicamente, ma ha il dovere di farlo fuori. Vogliono la Gerusalemme in terra, vogliono i comunisti la Gerusalemme in terra. Ti voglio dare un'idea al volo. Dimmi, dimmi. Ma perché non chiamiamo al volo il professor Del Debbio? Vediamo com'è il clima lì. Ah, il professor Del Debbio, dici? Stasera ospita lì a Quinta Colonna il presidente. Vediamo Fausto dalla provincia di Piacenza. A poca calda, sentiamo com'è il clima. Sentiamo Fausto dalla provincia di Piacenza intanto. Fausto? Fausto? Sono io. Dica. Fausto, sono qua. Vada. Allora, io volevo portare la mia modesta testimonianza in relazione all'argomento che avevate prima con Sgarbi, cioè? Cioè della diversità di età tra uomo e donna. Sì. Io sono felicemente insieme una ragazza di 26 anni, io ho 70 anni. Sì, dunque lei ha quanti anni di differenza? 44 anni di differenza. Beh, più o meno siamo come Berlusconi. Siamo più o meno come Berlusconi, quindi io ma non ho le possibilità di Berlusconi io, perché si parla soltanto di soldi e tutto. È italiana? Non è italiana. Ah. Tutti ridono, italiana, tutti ridono qua. Perché ridete? Umano, perché ridete? Tutti ridono qui intorno, io non posso sentire, ma tutti ridono, ci vorrebbe la risata finta. Si vede che sono contenti. Se ridono, no, ridono perché per quando lei ha detto che non è italiana, perché è facile, no? Uno va all'estero, acchiappa no, e via. No, io non sono andato all'estero, io sono stato a casa mia. Vabbè, è uguale, insomma, su, non lo so. No, non è uguale. Non e che è, ne non so, è Fausto, molti ironizzano, io non ironizzo, molti ironizzano. Lei ragazza? Di dov'è? Marocco. Marocco, vabbè. Ma secondo lei sta con lei perché? Come? Perché sta con lei? Perché? Sta con me perché è innamorata di me e io sono innamorato di lei. Pensi sì, un po'. Lei è sicuro che lei è un po' che, pensi un po' che combinazione. Lei è sicuro che questa ragazza è innamorata di lei, sì. Ne sono certo. Ne è certo, cala, sì. Cala. No, come cala cala? Cosa che è? C'è da di cala cala, ma sai che ne sai? Che ne sa quello lì? Cala cala. Quello lì della mia vita. E che ne so io, dell'Utri, eh? Dell'Utri, cala cala, ma cosa me ne frega a me, che lui stia dove sta, io non ho niente da dire io su dell'Utri, almeno, non voglio dire niente su dell'Utri, ecco almeno. E che ne so, è rimasto stupito del fatto, del fatto che lei dice, del fatto che lei dice che una di cultura, come si dice, sia stupito. Non so se è stupido, che una ragazza stupido. Di 26 anni marocchina si è innamorata di lei che ne ha 70. Cala, cala. No, sono 3 anni e mezzo che sono insieme, bimbo. E beh, che c'entra, scusi, Fausto? Sono solo 3 giorni. Vabbè, ma che vuol dire che 3 anni e mezzo? Cioè? Vuol dire che si possono stare queste unioni. Io sono felice, sono contento, e lei pure. Cioè, non è che... E non è insieme a me per i soldi, perché io non sono un poveraccio, però cioè, faccio una vita decorosa. Basta, io volevo soltanto dare il mio porto. Non ci fa più l'amore, no. Come? Non ci fa più l'amore, basta. Beh, anche ieri sera fino alle 4:30 sei così brava. Interessato. Cala, cala. No, cala, cala, che mia da cala. Ma perché volete dire così? Ve la faccio conoscere, vengo lì in redazione, non so cosa devo fare. È nel libro dei sogni fino alle 4:00 del mattino, dai. Ma dai, è una settimana che io vado a letto alle 4:30 del mattino, nemmeno Parenzo alle 4:30 del mattino. Ma cosa vuole Parenzo, bravo ragazzo Parenzo, ma lui non ha idee, Parenzo non ha idee. Nel libro non ha idee vivaci, Parenzo non ha idee vivaci. Sono bravi tutti a telefonare alla radio, io ho 76 anni, sto pure di 27. No, io le ho telefonato appunto per questo, vi ho disturbati solo per questo, siccome stavate ironizzando su Moravia che come poteva stare insieme, ci sta, c'è la possibilità, credetemi. Ma di cosa sei innamorata di lei? Del mio viso, del mio fare, del mio modo di fare, della ma mia persona. Modo di fare? Dai, su, dai. Dai. Ma insomma, ma dico, ma Parenzo, ma lei fa sempre vuol sempre fare il guazzafete a tutti i costi? Ma dai! Ma lei, insomma, Cosa devo fare per dimostrarvi questo? Cosa devo fare? Ditemi! Ma lei sta dicendo delle cose assurde, su! Ma come delle cose assurde? Sta dicendo delle cose assurde lei perché non le hai mai provate, Parenzo! Ma le pare? Ma cosa sta dicendo? Ha 76 anni a dire, a fare anche il ganzo, a dire che sta fino alle 4 del mattino. No, io ho 70 anni, Ma mangi una minestrina e vado a letto alle 9, su. Ma mi faccia mica ridere, vado a letto lei alle 9, ma cosa sta dicendo, Parenzo? Se viene stasera io vado fuori a cena con la bimba, vado fuori a cena e poi vedremo. Poi vedremo se ho sonno. Se avrò sonno andrò a letto, se non avrò sonno starò sveglio. Cosa vuol dire? Stai in giro fino alle 4 a ciondolare, faccia un uomo della sua età, mangi un riso in bianco con un po' d'olio sopra, Parenzo, e le Parenzo, ma lei si svegli un po', si svegli, mi sa che sta dormendo, dai. Va a lei mangiare la panada, qua si dice la panada. Cala quando la zanzarina tormenta la mia noce. Alcuni ci accusano di fare una vergognosa ironia sui sentimenti. Ma adesso non si potrà nemmeno ironizzare su una relazione tra una persona che ha 50 anni di meno, dai, su. Comunque ti segnalo una dichiarazione di Borghezio, che forse c'è anche in audio. Aspetta. Chi è questo? Galli? Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Ciao. In questo momento il tuo amico è impegnato in una situazione molto toccante. Appena si libera, dirò che hai chiamato. Forse. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Caro onorevole Galli, innanzitutto bellissima questa segreteria telefonica, molto invitante. Siamo noi della Zanzara, Radio 24. Vogliamo, non dico giocare, ma colloquiare con lei sul tema dei rimborsi. È vero o non è vero che lei si è fatto rimborsare dallo Stato, cioè da noi, con i nostri soldi, il pranzo di matrimonio di sua figlia Valeriana, 6.180 euro per 103 invitati, ha detto nei giorni scorsi che avrebbe controllato. Ha controllato? Grazie e complimenti ancora per la segreteria telefonica. Molto bello. Era davvero la segreteria telefonica dell'onorevole Galli, capogruppo della Lega in Lombardia. Capogruppo della Lega in Lombardia. Maria da Milano, 800 24 00 24. Pronto? Pronto? Prego, dica. Sì, buonasera. Tempo fa ci avevate raccontato la lieta novella dell'arte regina che aspettava l'erede da Berlusconi. Sì, lei lo ha raccontato in realtà, la signora Began, cioè non è che l'abbiamo raccontato noi. No, cioè. Certo, voi l'avete riportato giustamente. Allora, eravamo ansiosi di avere notizie sull'erede, visto che Berlusconi... Poi ha detto di aver perso il bambino, cara Maria, bisogna aggiornarsi. Mi dispiace tanto. E poi non mi attacchi la signorina Began, che è mia amica. Non me la attacchi la signorina Began, non me la tratti male. Se è vero che la Pascale è la fidanzata di Berlusconi da un anno e mezzo, cioè c'è questa piccola parentesi con la peregina che evidentemente ha sempre un posticino nel cuore del nostro ex premier. E chissà. Roberto da Bari, buonasera, grazie. Roberto. Qua, buonasera. Dica, caro Roberto. Volevo fare un po' il riferimento ai movimenti che state ponendo in evidenza. Sì. Anche quelli dell'avanspettacolo del Crosetto con la Meloni. Quello non è allora, proprio un movimento di avanspettacolo, secondo me. Comunque. Diciamo, vedremo i risultati. Volevo, giusto per far condividere. Lei ha la radio alta, deve chiudere il volume della radio, abbassare fino a zero il volume della radio. Sì, per far condicio sarebbe il caso di rappresentare che ci sta anche un altro movimento di Magdi Allan, sì. Che si chiama Io amo l'Italia. Sì, ma abbiamo già dato su questo, non si preoccupi. Perfetto, allora non ho sentito. Abbiamo già regalato sul signor Magdi Cristiano Allan. Il movimento si chiama Io amo l'Italia, che è tra l'altro provvisto di un grandissimo inno che fra poco trasmetteremo a tutto andare. Va benissimo. Grazie, grazie, grazie, grazie. Io amo l'Italia, come no. Attenti ai bambini per strada, perché con questo inno di Io amo l'Italia, cari ascoltatori, Parenzo, prosegui tu. Beh, cari ascoltatori della Zanzara, se siete in macchina, bloccati nel grande raccordo anulare, oppure sulla tangenziale di Milano, pronti a tornare a casa dalle vostre famiglie, non preoccupatevi, la fila è lunga, fermatevi, andate nella corsia preferenziale, dove teoricamente non si potrebbe andare, accostate, prendete il seggiolino del vostro bambino, questa volta semplicemente appoggiatelo fuori dalla macchina, piove, piove a dirotto, rimontate in macchina, il bambino un po' piangerà, ma ne avrà giovamento, ritornate in macchina, corsia preferenziale, ingranate la quarta e via, a tutto randello. Siamo qui. Ciao. In questo momento il tuo amico è impegnato in una situazione molto toccante. Appena si libera, dirò che hai chiamato. Forse. La segreteria telefonica di Galli, capogruppo della Lega alla Regione Lombardia. È un genio, però. Devo dire che. Giù il cappello davanti a queste cose, giù il cappello, perché uno che si inventa una segreteria telefonica del genere dicendo che è impegnato in un po' di guai, diciamo, con una voce. Femminile è un genio, dai, su. A suo modo è un genio. Magari si è fregato pure un po' dei soldi nostri, forse, però. È vero. È con noi il grande Leo Gullotta. Grazie, buonasera. Come grazie sta? Anche dell'invito, non so a che proposito, ma con piacere con voi. Ma a che proposito? Noi siamo così dei cialtroni della radio e invitiamo invece persone che fanno teatro, che ci possono dire delle cose sulla società, sulla politica. Insomma, lei avrà delle preferenze politiche, saprà già chi votare nel 2013 o no? Assolutamente sì. E chi voterà nel 2013? Vendola. Ah, Vendola, dunque Sel, lei vota Sel. Sì, esatto. Vota se, l'ha votato pure alle primarie? Voto io per tutte quelle persone, in questo caso Vendola, che hanno una, come posso dire, una precisazione di onestà, che hanno sì. saputo fare e fanno bene il loro lavoro, così come dimostrano le carte, le situazioni del governatorato della Puglia, sì. oppure quello appena arrivato e spero bene in futuro, Crocetta, per esempio, Crocetta, per sì. quanto riguarda la mia Sicilia, è per la prima volta è accaduto un terremoto. Vediamo quello che farà, no, Gullotta? Vediamo quello sì, che farà appunto, in Sicilia. Aspetto questo momento. Senta, certo, ha scelto due assessori un po' bizzarri, il signor Crocetta. Bizzarri? Sono persone per bene. Creativi, creativi. Di persone per bene non ne vedo assolutamente nulla. Anzi, dopo l'assurdità di questo cavaliere mascherato, mascherato con il giochetto di striscia, sì. Mascherato sempre di più, con tacchi di più, con trucco di più, che fa questo giro promozionale elettorale osceno in tutte le televisioni, devo dire, anche osceno. Per quello che dice, come lo dice, per quello che recupera, come lo recupera con questi balletti, che è carino, bellino, gioietto, no, non c'è veramente fondo alla vergogna. Scusi un attimo, ma veramente l'ha visto così vergognoso Berlusconi ieri della D'Urso? Comunque beh sì, abbastanza, ma via, tutto dopo tutto quello che è accaduto ancora dobbiamo ballare, parlare su queste cose, via. Ma il fatto che abbia voluto ufficializzare questo fidanzamento con una giovincella di 50 anni, solo di 50 anni più piccola di lui, come la vede questa cosa? A me la cosa non mi riguarda completamente, non mi interessa, non mi è mai interessato, non ha fatto nulla per questo paese, anzi si è fatti i fatti suoi, sì. Io li continuo a fare, è convinto e forse sì. solo, ha bisogno di compagnia, come dice, tutto quello che è accaduto non è vero nulla, i magistrati ce l'hanno con lui, tutto dipende dai magistrati e io rimango basito da cittadino. Ma non è un fidanzamento elettorale, insomma, un po' per darsi una nuova immagine. È un fidanzamento elettorale, lui le racconta, stasera sarà per un'ora e mezza su Rete 4, domani sarà da Vespa, sempre un'ora e mezza, ci mancherebbe altro. Ma funziona? Funziona ancora? Non so se funziona, lui è convinto ancora, parla come 30 anni fa, l'unica cosa che conosce è la pubblicità, quindi prepara ancora sloganetti, ma credo che l'Italia abbia capito abbondantemente. Però insomma molti dicono che, per esempio, a proposito di omofobia e di altre cose, Berlusconi sia uno che ha sempre rispettato gli omosessuali. Non ha rispettato mai nessuno, forse non rispetta nemmeno se stesso e nemmeno la sua dignità. Addirittura? Sì, come addirittura? C'è bisogno che glielo dico io? No, vabbè, che c'entra? Vabbè, adesso stiamo parlando anche, lei dice politicamente, ma anche dal punto di vista umano, dice lei. Beh sì, un presidente Presidente del Consiglio, ex, che fa quello che fa, che si ritira in buon ordine, che ricatta il tecnico che arriva con tutto quello che succede, più tutto il suo passato, no, mi sembra eccessivo, la prego. No, scusate, però questa storia qui del fidanzamento con una ragazza di 28 anni, non la colpisce? Insiste sul fidanzamento, a me non interessa. Non le interessano queste cose? Lui, come sempre, vuole fidanzarsi continuamente con il potere, sfruttarlo per i suoi mezzi, per le sue cose. La cosa non mi interessava prima, non mi interessa no, ancora. No, d'accordo, però molti l'hanno interpretato prima, pure Freccero da noi, qui ha detto un fidanzamento elettorale, cioè per farsi vedere in campagna elettorale che è lui ormai fidanzato, che ha dimenticato la vita passata, le feste, eccetera. Anche questa è una preparazione pubblicitaria, no? Lui è bravissimo su questo tema, l'ha inventata lui, no? La pubblicità. Sì, sì, ma lei è preoccupato per queste cose, no? No, assolutamente. Per il ritorno di Berlusconi, no, non lo temo. No, sono preoccupato perché, semmai, per la semplice ragione che ancora una volta porta più confusione di quanto non ci sia, e l'italiano invece credo che in questo momento ha bisogno di poter capire, perché a questo punto bisogna capire bene per andare a votare. Tra altre cose, la data del voto non si sa bene, c'è la faccenda delle firme, stasera credo che voteranno, c'è un emendamento lì in Parlamento per il voto della raccolta delle firme. Vedremo. Che il tempo non basti, insomma, la confusione è totale. Allora, sogno di una notte di mezz'estate, stabile di Catania, se non sbaglio, fino al prossimo 16 dicembre, Leo Gullotta, che secondo Pingitore, caro Parenzo, secondo Pingitore farebbe molto bene, ha detto la Fornero, farebbe molto bene la Fornero, credo si riferisca al Bagaglino. Torniamo tra poco, dopo la pubblicità, oggi al 17, che ho detto? Fino al 16, numero, è finito il 16, è finito lo spettacolo, ho detto 17. Ottimo numero. E io sono un po' ritardato, penso no, che non è finito lo spettacolo, continua, va in giro e a febbraio saremo all'Eliseo. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che vengono lontane le zanzare. E laica, e laica, la matriosca e la... Mi si è fidanzato? Sì, mi sono... Si è fidanzato? Sì, è ufficiale? Sì, è ufficiale. È ufficiale? Si è fidanzato? Una napoletana? Sono una napoletana come lei. Come a me, molto più piccola di me. Molto più piccola. Beh, insomma, così piccola che c'è un divario di 49 anni tra me e lei, sì. Quindi un po' eccessivo. Quanti anni ha? Possiamo dire il nome? 28 anni. 28 anni, si chiama Francesca? Si chiama Francesca. Una ragazza molto bella con sani principi morali. È una ragazza bella, bella di fuori, ma ancora più bella di dentro. E quindi una ragazza dai principi morali solidissimi, di un'allegria continuativa, mi sta molto vicino, mi vuole molto bene e io la ricambio. C'è la statua del cavallo di Zabov, sì, c'è l'impronta della scarpa di Khrushchev, sì. E poi racconta la storia di come si conobbero i due. Cambiò Silvio Scimanchi in Silvio Mi Manchi. Ci conosciamo da 7 anni, lei era la presidente di un club a Napoli, Silvio Scimanchi. E quindi l'ho conosciuta perché... E mo non le manca più però. No, adesso... in effetti... Adesso Francesca però non le manca più. Cosa ha fatto per conoscersi e per avvicinarsi a me. Raccoglieva i soldi e mandava sulle riviere o anche in Sardegna un aereo che tirava dietro una fascia con scritto Silvio Scimanchi. Poi gli ultimi soldi chiese ai coloro che glieli avevano dati di poter cambiare e l'ultima settimana il Silvio Scimanchi diventò Silvio Mi Manchi. Adesso mi sento meno solo. La certificazione della Biancofiore. Lei è molto innamorata. Anche Berlusconi, credo. Francesca è sicuramente molto innamorata e credo anche il presidente, perché altrimenti non l'avrebbe mai presentata pubblicamente. Sì. Eh beh, la stessa Biancofiore che poi ha detto anche che i gay purtroppo sono estremamente comuni, così ha detto, purtroppo, ma lo diceva credo pro domo sua, non credo che abbia un'idea un'idea sbagliata sugli omosessuali. Volevo sapere da Leo Gullot, che è in collegamento con noi, come ha preso, come ha preso quest'ultima uscita del Papa sugli omosessuali, sull'omosessualità, Gullot? Beh, secondo lei come la posso prendere? Che ne so, che si dovrebbe interessare. No, me lo domanda, quindi forse lo dovrebbe immaginare. Ma sì, lo immagino. Presumo che anche lei sia una persona con i piedi per terra, civile, zanzarone. Ma noi siamo qui. E allora, pensi che domani, Gullotta, un signore che sì, insomma, dovrebbe preoccuparsi di anime, di amore. Sì. Noi gay dovremmo rappresentare il pericolo della per pace, la pace. Ma via, anche questa è una bella risata. È una bella risata, però. Gullotta. Ma che deve dire il Papa, purtroppo, Gullotta? Potrebbe anche. Non sento, chiedo scusa. Non dice sento. Parenzo che deve dire il Papa. In fin dei conti dice quello che ha sempre detto, però in questo caso è andato un po' oltre, una minaccia per la pace, per la giustizia, eccetera, eccetera. No, ma è una minaccia comunque. Mi sembra di tornare di leggere la Santa Inquisizione ancora con questo tema, ma ci sono dei temi importantissimi dove la Chiesa potrebbe offrire una sana mano. Invece niente, invece niente. Invece niente. Inquisiti, messo al muro. Ma scusi, ma c'è qualche speranza? Deve sapere che tra l'altro domani io e il signor Parenzo siamo testimoni di un grande evento per le coppie di fatto, caro Parenzo. Tu manco lo sai, qua a Milano, anzi no, mercoledì 19. Cioè, ci sì, sarà sì, un grande evento in cui io e te siamo testimoni di una grande serata fuori delle coppie di fatto. Vabbè, ma lasciamo perdere. Poi... Bene, siete zanzaroni proprio per questo, perché siamo... andate a pizzicare le cose giuste. Siamo una coppia di fatto noi. Meno male. Siamo andati a letto qualche volta, ma in realtà sempre in modo... Avete fatto bene, avrete goduto qualche cosa. Ma lei è fidanzato, Gullotta? Come no, io convivo da circa 34 anni. Ah, 34 anni, ma lei è fedele oppure... Fedelissimo. Fedelissimo a 34 anni? Sì, perché che c'è di strano? No, vabbè, sa, la fedeltà a 34 anni è un tempo molto lungo. Anche voi così aperti un po' di pregiudizietti li avete. No, chi? Sugli omosessuali, no. Dice lei? No, cioè lei pensa che io non posso concepire una relazione omosessuale fedele? Se mi fa la domanda, credo di sì. No, io dico in generale 34 anni di fedeltà anche per gli eterosessuali, non è che lo dico solo gli omosessuali, per carità. No, veramente i tempi, 34 anni di fedeltà da discutere, tutti sono pronti, la maggior parte perlomeno, di eterosessuali ad inseguire la stanza dei bottoni, la poltroncina sotto il culo, la biancofiore per esempio, che continua a dire lo amo, poverina, è una che si deve garantire la poltrona, qualche cosa gliela devono dare. Senta, ma Grillo come lo vede lei? Grillo esiste perché manca ed è mancata una politica totale, quindi se esiste Grillo significa che la gente ha cominciato comunque a sapere delle cose ufficialmente e ci pensa, ben che ci sia Grillo, fa discutere, fa parlare, questo serve in questo momento in Italia. Qualcuno ha detto anche che è un tantinello omofobo il signor Grillo, Questo personalmente non mi risulta, però per carità non so esattamente questo argomento. Va bene, Leo Gullotta, presto. Ciao, allora, presto. Il teatro a febbraio all'Eliseo. Volentieri, ciao. Ci vediamo, le coppie di fatto sono accettate. Beh, no, sì. Noi siamo coppie di fatto, però eterosessuali. Sì, però non precisare. Ma che problema c'è? Ma è sempre... ancora fa queste distinzioni. Sì, ancora un po', c'è un po' di pregiudizi, ragazzo. No, ma che pregiudizi? Ha un po' di pregiudizi, ragazzo. Dice, anzi, di, essere, dice di essere aperto e poi stai lì a precisare. Non c'è bisogno di precisare. No, ma perché hai detto che siamo andati a letto i sedici. Ma non c'è bisogno di precisare. Se uno precisa, significa che vuole distinguere. Chi allora. Il condominio a Parenzo che cosa gli dirà domani mattina? Bravo, lo so, lo fa apposta. Perché secondo lui se non precisa allora la gente pensa, e beh allora se pensa qual è il problema? Se pensa chi se ne frega per me? Cioè... Ma non è informazioni sbagliate, ma chi se ne frega, pensassero pure io sono omosessuale, ma sai che me ne frega a me, non è che ho Bravo. Pregiudizi, cioè non è che... Cioè, per me, se mi dicono sei omosessuale, dico non è che dico no, che cosa hai detto? Oddio, che cosa hai detto? Ma dico, io non dico così. E allora io risponderei: allora sì. E allora ma è sì. Come se uno mi dica: ma scusa, se uno ti dà nel cornuto. Ma no, vedi che hai pregiudizi? Ma no, Gullotta, ma dico che non è vero e basta. Poi non ci dica Gullotta, glielo dica, Gullotta, glielo dica che ha pregiudizi. Cornuto. Può essere, questo può darsi, però voglio dire no, ma tu se vuoi precisare è come se tu hai Parenzo non sa trattenere la favella. No, è che lui vuole precisare perché pensa che uno ha in faccia il timbro sono omosessuale. No, sei una persona come gli altri, solamente che dubbio, se hai dei gusti sessuali, hai dei gusti diversi. Parenzo, sono omosessuale, allora E allora? Ma no, ma va benissimo, non c'è nessuno che... Urluto! Ecco, va bene, ma può essere, però... Urluto! La entusiasma è il fatto che la Russa fa un suo movimento politico, Gullotta? No, per carità, mi fa ridere, mi fa ridere. È di Catania, tra l'altro, sì, è di origine. Sì, non mi interessa, io, Catania o non Catania, cerco persone serene, sane, pulite nella mente. E che ha fatto la Russa? Beh, qualcosa ha fatto, ad esempio dai calci a domande non convenienti, senza farsi vedere, poi dice che è stato un altro, come a scuola. Senta un po', ma Catania come l'ha trovato? Ho letto che l'ha trovata sporchissima. Sì, ma questa è una cosa generale, ma questo era un discorso che apparteneva all'avvio del nuovo dell'arrivo di Crocetta, Catania sporchissima. Ma perché ma non si candida lei a Catania? E perché mi devo candidare? Quando io ci saranno... faccio e non mi riesce bene sempre il mio lavoro. Dunque lei gli artisti... Ognuno dovrebbe fare il lavoro che sa fare. Ah, ecco la frecciatina Battiato però. Ecco la frecciatina Battiato. No. Beh sì, Battiato un po' sì. Va bene, fa benissimo, anche perché è persona onestissima, pulitissima, e infatti l'ha messa sul piano di dire no, un momento, non mi fate avere rapporti con i politici, io do dei consigli. Ho capito, ma quello deve fare il tour, Gullotta. Va il tour evidentemente, poi porterà qualche cosa. Sa, anche tutta l'Italia, a parte la Sicilia, queste cose delle che ormai i politici fanno, le gare culinarie, la barzelletta, non esiste altro, non esistono mostre, non esistono spettacoli, non esiste teatro, non esiste lirica, non esiste musica, non esiste nessuno. Dunque può risollevare la Sicilia. Cornuto, Parenzo, cornuto! Senta, Gullotta, ma che cosa, non ho capito, cosa pensi invece di quelli che votano PDL? L'hanno votato prima e forse lo voteranno quelli ancora che votano oggi, Berlusconi. Che pensa di quelli che votano Berlusconi? E che cosa posso pensare, mischine? Che stanno lì ad aspettarsi un ennesimo miracolo senza sapere nulla. La sua confusione serve anche a questo. Ma sono un po' coglioni, come disse Berlusconi, degli altri, di quelli che votano la sinistra? Io non mi permetterei mai di giudicare chi la pensa diversamente da me. A presto, un abbraccio. A presto. Arrivederci, auguri. Ciao. Buon Natale. Francesca da Torino, buonasera. Sono Francesca. Dica. Ecco, io volevo dire una cosa. Io sono una ragazza, quasi 30 anni. Sì. Sono italiana, sono siciliana, come la Gullotta. Una ragazza madre. Sono, io voglio molto bene, non amo la parola mare, ad un uomo di 76 anni, sto con lui. Sì. Per sicurezza. Sono cioè lei ha, scusi un attimo, signora Francesca, lei ha 30 anni? Quasi 30 anni. Quasi 30 anni, 29 diciamo, no? E sta con una persona che ha... Allora, io voglio bene ad un uomo di 76 anni. Come Berlusconi in pratica. Come Berlusconi. Cioè la stessa differenza, la stessa differenza di età. Certo, solo che io sono sincera e al contrario di sicuro della signora marocchina che sta con il signore di Milano. E forse anche della signora Pascale. Sto con lui perché li voglio molto bene, però sto con lui perché è molto ricco. Perché mi è molto fa ricco. Sentire, mi fa sentire sicura economicamente, lui mi ama, io li voglio bene. Sì, certo. Non lo amo. Vabbè. Ho dei rapporti sessuali soft con lui. Soft e che non vuol dire? Soft con ragazzi di 30 anni come me. Che vuol dire perché soft? Povero Paolo. Sì. Immagina lei fare sesso, come diceva il signor di prima, fino alle 4:30 di mattina. Ma no, vabbè, questo è un po'... Vabbè, magari... Quello è fuori, perché quel signore mente, magari farà sesso una volta alla settimana. Ma cosa vuol dire rapporti soft? Io, soft? Sì. Faccio massaggi erotici, insomma, faccio... E a lui piacciono, anche a me. Solo quello, cioè non c'è compenetrazione di corpi. Ma non riesce. Non riesce. Devo dire la verità, sono molto sincera. Io amo molto questa persona, li voglio bene, ma non è come dice quel signore di Milano, non è possibile. Beh, c'è qualche aiutino. Non è innamorata pazzamente di lui. C'è qualche aiutino, signora Francesca. Esistono gli aiutini, No. Io amo molto il sesso, ma non posso farlo con un uomo di 76 anni come piace farlo a me. Ma dunque... lui sa che lei ha rapporti con altri. Ecco. Certo, ma lui lo sa, io sono sincera. È consapevole. Io sono una ragazza musulmana che... Perché? Che cos'è? Magari... Mamma mia. Perché? Che cosa c'è? Ma questa qui è diventata Radio Inferno questa. Perché Radio Inferno? Hai trasformato questa radio in un po' stribolo. Io andrò all'inferno, di sicuro. No, perché lei andrà all'inferno? È l'immoralità. Perché andrà all'inferno? No, perché insomma faccio delle cose che per molti bigotti sono sconce, no? Cioè, scusi, lei è sposata con questo 76enne? Com'è? È sposata con questo 76enne, no? No, non è mio amante. È come la signorina che io... Cioè, suo amante convive. No, lo vedo, lo amo. Ah, lo no. Vede, lo ama. Cioè, lo ama. Vedo ogni tanto. Vabbè, allora è diverso. Cioè, ama i suoi soldi. Ama il suo denaro anche. No, certo, ma lui lo sa. Ma perché la mantiene? Soldi. La mantiene? Mi mantiene. Quanto le dà al mese? Ma che te frega? Che andiamo a fare... Sì, infatti. Ma che te frega, su? Dai, frega? Ma che te ne frega a te? La mantiene, ha detto, basta, adesso non è che bisogna dire, mi dà 20.000 euro, 10.000, 3.000, 4.000. Beh, che te immoralità proprio. Immoralità cosa? Perché, no, è questo è coso. È Gullotta che interviene. Che dice Gullotta del suo amante? Sentiamo. Curnuto. Beh, un po' sì, eh. Affascinante anche perché, insomma, è una persona importante nel suo campo. Allora, c'è da precisare che sembra che... Gasparri si sia scisso dalla Russo, la Russa si sia scisso da Gasparri. Cioè, in questo nuovo movimento, magari no. Domani mandiamo in onda quel famoso audio di La Russa in cui dice tutto quello che dice Gasparri, per me la penso esattamente allo stesso modo, qualsiasi cosa succeda. Sembra che i due si siano divisi. Qualcuno può parlare ironicamente della scissione dell'atomo, no? La mitica scissione dell'atomo. Beh. Però in questo caso è un po' più dell'atomo. È come non avere più insieme Stanley Olio, Bud Spencer e Terence Hill, Cruciani e Parenzo. Si potrebbero anche offendere i due, comunque. Oppure gli altri. Sì, Bud Spencer e Terence Hill si offendono. Francesca, allora io vorrei capire in definitiva questa qua. Lei sta, ricapitoliamo per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso. Signora Francesca da Torino ci ha chiamato. Perché stiamo parlando. Francesca da Torino, stava pensando ovviamente alla provincia di Torino, alla differenza di età tra Berlusconi e la Pascale. E lei dice: io sto con un 76enne, ho meno di 30 anni, più o meno la stessa situazione, ci sono 45, 46 anni, 47 di differenza. Ci sto per il denaro. Con lui faccio del sesso, no? Lei dice anche per affetto, no. Comunque principalmente per denaro, giusto? Beh, è brutto però. No, principalmente, ovviamente, dico la verità, io. Sì. Quando ho saputo che poteva pagarmi gli studi, io ho detto, ma perché no? Perché no? Allora, ma il sesso soft è solamente... Gentile, il è una sesso... persona molto sì. In gamba, sì. Ha lavorato tutta la vita, ci troviamo bene anche sul piano proprio, diciamo così, culturale. Adesso non ce la meni però, signora Francesca, piano culturale. Adesso, no, lei ha fatto professione di cinismo, adesso la mette sul piano culturale. E c'è il denaro lì, la mantiene, i soldi, gli studi, eccetera, la vita, o no? Certo, io sono sincera. Ho detto la prima cosa che ho detto. Scusi un attimo. Se fosse povero non starei con lui. Non c'è dubbio, ma questo sesso soft si estrinseca solamente in un massaggio, non per farmi gli affari suoi. No, sesso soft, insomma, si fa una volta... Ma cosa vuole sapere? No, ma è il sesso soft che mi incuriosisce. Cioè, soft, no? La parola soft, soft. Un sesso leggero, insomma, non c'è più quella passionalità che io ho bisogno, perché io ho bisogno. E dunque ogni tanto arrivano i trentenni che... No? Certo. E via. Trentenne, quarantenne. Quarantenne, vabbè, certo. Assoluto. Che no. Ma da qui a dire che una ragazza può stare... che può essere innamorata pazza di un 76enne e che fa sesso, come diceva appunto quel signore, da una settimana fino alle 4:30 no, di ma non può essere innamorata pazza, lei dica la verità, non può essere innamorata non può esserlo, io non può essere. Glielo dico davvero No, no, ma lei ha ragione, non può esserlo, sono d'accordo con lei. Non può esserlo. Non può essere, non può essere. Ma vabbè. Non perché io non lo sia sì. E la ragazza non può esserlo, ma perché dopo 2-3 mesi stare con un uomo che... Dai, diciamo la verità. Sì, ma come? Diciamola tutta, dai. Ricorda veramente mio papà. Non c'è dubbio. Ma scusi, ma però è una cosa terribile. Ma è una cosa terribile, è la realtà, bisogna dirla. Mi piace questa persona, ma non posso considerarlo il mio uomo, come fanno queste signorine che magari... Secondo me mentono. Però ha ragione Gullotta quando dice che in realtà questo suo, diciamo, compagno è un po'... Cornuto. È così, poi alla fine no, è così. No, cornuto no. Beh, insomma, no, perché sì. Lui lo sa. Ma no, ma bisogna essere... Ma no, ma... Cornuto, dice, è quello la... inconsapevole, dice lei. Ma lei, qualcuno ma no, sospetta... Ma lui lo sa, ma anche Berlusconi sì. Lo sa che lei andrà con altri a fare... Ah, lei dice, a fare sesso vero. Lei ecco, dice, io chiamo così. Vabbè, certo. Grazie, cara Francesca, l'abbraccio fortissimo. Prego. Sara dalla provincia di Torino, se è vera, però, perché la voce mi sembrava un po' finta. No, detto con tutto il rispetto. Sara. Sì, buonasera. Buonasera, dica, cara signora. Vi ascolto obbligata da mio marito che vi apprezza moltissimo. Giustamente la obbliga. Mi obbliga e per cui, siccome ho buttato via la televisione per non vedere più Berlusconi, non sentire vabbè, più, adesso, eccetera, sono passata alla radio da 2 anni a questa parte. Vabbè, vada al sodo. Rimpiango Giancarlo Santalmassi con tutta l'anima. Beh, guardi che se vuole le do il telefono, eh. Ah sì? Vuole lo il telefono? Subito. Lo prende lo subito. Meglio adesso, fuori onda, adesso, sennò altrimenti sì. Diffondo telefono. Così si fa una bella chiacchierata, gli dice che Cruciani no, è uno stronzo, una testa di cazzo. Mi sputerà in un occhio perché gli scrivevo tutti i giorni. Per no, quindi... che le sputi in un occhio, tutt'altro, guardi che le risponde, le dirà sicuramente Cruciani è un coglione, un maleducato. No, non è affatto maleducato, ogni tanto è tremendo come tratta la gente perché veramente... Sì. Sareste da impiccare tutti e due delle volte quando chiamate le ambulanze eccetera però siete gradevoli su tanti settori. Ma scusi però cara signora Sara, si deve un po' decidere lei. Rimpiange come dire, no, i grandi miti per carità radiofonici, rimpiange no, un tempo che fu diciamo scherzoso anche in certi versi eccetera sì. Però voi, porca puttana ladra, ecco, state esagerando. Calla. Vabbè, grazie, cara signora. Dimmi, dica, che mi... No, a parte gli auguri di Buon Natale per quando arriva, eccetera. Vabbè, chi se ne frega. Continuate pure sulla vostra falsa riga, però con la storia di Berlusconi lei è un doppio giochista, è ragazzo mio. Anche triplo, volendo, una alcune volte. Una figura sfoderata, anche triplo. È troppo furbo. Triplo gioco. Triplo gioco, grazie. Claudia da Milano, donne, Claudia da Milano. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Volevo dire 3 cose in successione rapida. Rapida, allora, molto rapida. Allora, prima cosa, fidanzamento a fini elettorali lo trovo abbastanza idiota, perché se avesse, a mio modestissimo avviso, avesse voluto, io l'ho pensato, fare un'azione di questo genere avrebbe dovuto, per dare un'immagine nuova di sé, non del solito tomber di minorenni o di... suffragette, che mi offende da donna, prendersi una bella signora di 40-50 anni posata con una posizione, invece che la solita suffragettina che non sa mettere insieme il congiuntivo e il condizionale. E che ne sa, l'ha mai sentita parlare? No, però Cruciani, ho sentito la Cristina, quella che ha invitato lei in trasmissione l'altra volta, che faceva bulli e pupe, i secchioni, ho capito, mica si è fidanzata con quella, però le cretinettine, no, però quello è il genere che fino adesso, di cui fino adesso si è cinque. Intanto la coppia Berlusconi Pascale è finita nel presepe, eh? È finita nel presepe. Ecco, quindi io la trovo una scelta, qualora fosse strategica, sbagliatissima, ma lui di scelte sbagliatissime ne ha fatte delle. Grazie Pietro. Poi da Pesaro trovo... No, è troppo tardi. Pietro da Pesaro, buonasera. Vada Pietro, veloce. No, io vorrei dire che se mi capita anche a me una signora come l'età di Berlusconi, spesso motivo economico, lo farei anch'io. Anzi, divorzierei dalla moglie e starei con lei. Vabbè, adesso stai esagerando. Ma non neanche con la moglie, dai, su. Dai, su, Pietro, esagera, dai. Sì, io il lavoro... Divorzia dalla moglie per andare con una 70enne ricca, su. Pietro, quanti anni ha lei, scusi? 38. 38, dunque lei si metterebbe tranquillamente con una 70enne, 75enne ricca? Sì, come? Cioè, come Berlusconi al contrario. Vabbè, ma è diventata veramente questa radio una cosa vergognosa. Radio guarda. Immoralità. Smetterei il lavoro che faccio, mi metterei così almeno finisco di lavorare. È diventata una radio inascoltabile, guarda, Parenzo, è tutta colpa tua, sei vergognoso, sei. A domani, 18:30. Ciao. In questo momento il tuo amico è impegnato in una situazione molto toccante. Cornuto! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cornuto! Radio 24. La passione si sente.